Grey's Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signore e signori, bentornati, bentrovati a Voice Anatomy. Oggi è la 14ª puntata. Sono circa 4 mesi che siamo qui in vostra compagnia e intanto vi ringrazio. Abbiamo cominciato con il grande Frank Sinatra, la prima puntata, The Voice per eccellenza. Ebbene, il 12 dicembre del 1915 nasceva Frank Sinatra. Ed è con questo contributo di un altro grande, di Louis Armstrong, che vogliamo fargli i nostri auguri. E allora, buon compleanno, grande Frank, ovunque tu sia. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old are you? How old are you? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. You look like a monkey and you smell like one. Bene, da grande voce a grande voce si staranno facendo compagnia, una meraviglia, però al mio fianco ho aggiunto un'altra grande voce, ma soprattutto abbinata anche a un corpo importante. E allora, ecco, c'è stato solo un ancora non sapete niente. Lei nasce a Napoli, è un'attrice, ecco, non è mezzanotte, tesoro, no. Ok. È un'attrice, è una showgirl. Il numero non è 144-6144, no. Ma il nostro numero di telefono è 824-0024 per partecipare in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms con tanto di WhatsApp. Ma continuiamo la biopic della nostra l'ultimo protagonista. Sei. Sei. E allora lei è un'attrice, giusto? Sì. Una showgirl. Yeah. Showgirl, showwoman. Yes. Show young woman. No. Midi. È cantante. Yes. Sì, è una conduttrice televisiva. Yes. Assolutamente. È italiana però. Nasce a Napoli. Yes, but I am international. Yes. International. Bene. Because fate spazio all'altro ospite, dovrebbe sì. Anticipare un attimo e fare uscire. Why? Allora, no, un'altra persona. Io la definirei artista da eclettismo effervescente. Non so come si può dire. Me oui. In Napoli. Ma come me oui? Me plaît. Ma adesso è un francese napoletanizzato. Mi perdoni. Mica tanto. È diventato pugliese. E dai, abbiamo cominciato benissimo con un ansimo meraviglioso che si può anche affrontare a quest'ora del pomeriggio, che sono 14:33 e 51 secondi, perché siamo in diretta da Radio 24. Signori, oggi con noi e soprattutto una cara amica, spero ancora. Yes, of course. De corsa. Marisa Laurito. Hey, ciao. C'è proprio lo stadio qui, non sapete, è una cosa pazzesca. Si sono riuniti a Piazza Indipendenza. No, ma incredibile. No, ma non solo, ma in questo studio io sto strettissima perché non diciamo il perché, no, non è no, carino, sono una donna. No, sto strettissima perché ci sono un sacco di persone qua davanti a me che stringono, che spingono, che fanno una cosa, non pensavo che aveste tutte queste comparse qui. Non sono comparse, sono proprio seguaci della trasmissione. Seguaci della trasmissione, assolutamente proprio sì. Directly by Roma. From Roma. No, from everywhere. No, vabbè, ma noi stiamo. No, noi stiamo a Roma. Possiamo dire, no? Siamo a Piazza Indipendenza. Sembra che ho detto una cosa che non dovevo dire. No, le siamo comparse a Roma. Hai detto che non stanno sono. Stanno a Roma proprio. Ma non sono comparse, però. Gente no, stanno che qua nello studio, non le vedi tu, forse non le vedi. Non sta bene. Chiamate il 118, sono amici. Io tanto la tengo occupata per un altro sì, blocco. Vabbè. Nel frattempo. Dimmi che dobbiamo dire, però, perché tu cincischi troppo. No, stai cincischiando tu e perdere tempo perché non vuoi che ti faccia delle domande. Allora, sei nata a Napoli. Io no, cincischi. Non cincischiare. Sei nata a Napoli. E l'arte e la sì. musica, no, insomma, sembra di no, far parte della mappa genetica di tutti voi, sì. tutti gli appartenenti a questo mondo partenopeo storico. Come è nata la tua, in te, la consapevolezza proprio che saresti diventata un artista? Ah, ma tu proprio mi vuoi fare un'intervista seria? Ma che, no, seria, Franzelli, no, il faceto, pensavo. La domanda a parte Franzelli il faceto. Allora, io quando avevo 8 anni, perché la gente piace, io glielo dico storia. Subito io la vostra, mi dai del voi adesso la vostra, beh, Napoli vostra, è voi, voi meno male. Sono contenta, bravi. Perché vuol dire che hai rispetto di me se mi dai del voi. Anzi, farò anch'io così. Allora, io avevo 8 anni, mm-hmm. e portavo dei capelli lunghissimi, non portavo, avevo dei capelli molto lunghi. Erano veri? Erano verissimi, ma pure mo sono veri, mica sì. sono finti. Non vedete... Certo, non sono lunghissimi mo, ma sono veri. Allora, non ce li avevo ancora appoggiati a caciotta come li porto adesso. A caciotta. A caciotta, un po', come dire. Azzeccati. Azzeccati. E allora avevo queste trecce pazzesche. Mi sono messa davanti allo specchio, perché io giocavo a fare l'attrice già a 8 anni. Mm-hmm. Mi sono messa davanti allo specchio, ho sciolto queste trecce, mi sono fatta la pettinatura a caciotta che porto oggi. Adesso. Che dico a caciotta e fa ridere, sorridere, ma insomma è una pettinatura da cocotta, appunto, anni 800 circa. E mi sono piaciuta da morire. È bella, e ho detto, ma proprio sto troppo bella così. Sono andata da mamma, ho detto, mamma, io voglio stare pettinatura. E mamma ha detto, togliti subito questa pettinatura da cocotte. Da cocotte. Ecco, da cocotte. E rifatti le trecce. Ah. E così però io in quel momento, vedendomi con questa pettinatura così, ho pensato subito che io dovevo fare l'attrice. Già a 8 anni avevi questa consapevolezza. Ma tu già cantavi? L'attrice. Già canticchiavi davanti allo specchio? Canticchiavo, giocavo con le scarpe, avevamo dei cappelli in questo armadio enorme degli anni 20, no? Ma insomma, perché così sembra che c'hai ancora... 120 anni. Ma non è vero, io non ce ne ho 120. No. Ma mamma nel cassone aveva i cappelli della nonna, della zia, della nonna, della nonna, della nonna, della grande madre, perché così si usava, non si buttava via mai niente. Niente, come il maiale, non si buttava c'erano via pure niente. Delle scarpe, delle calze di seta con la riga, con le calze di seta, io me le ricordo, ma non perché le portava mamma, no, certo. ma perché erano della zia che stavano là che nel cascione. Che poi se le disegnavano in quel periodo, se non erano di seta, facevano il disegnino con la penna, esatto, pennarello, col pennarello che era meraviglioso. Per far vedere che erano io di seta. Io dato che non porto le calze me le disegno proprio direttamente sulla gamba, anche perché ho una certa artisticità, diciamo. Così. No, è vero, ma è mi fa vero, no, è vero. Noi abbiamo questo fatto. No, so, dico noi perché facciamo un mestiere oltre quello dell'attore, sì. anche serie, eccetera. Sì, esatto. Ma essendo ironici, sì. quando parliamo seriamente sembra sempre che stiamo scherzando. Ma io non parlo quasi mai seriamente, questa no, è la cosa quella è fondamentale, amico. Fondamental. fondamental thing. Oh, insomma, da lì sei nata questa consapevolezza. Senti, posso chiedere una cosa? Una ma in che lingua la vogliamo fare questa intervista? Qualsiasi quella che ti capita, dal napoletano al romano, all'italiano. No, sai perché? Perché adesso c'è il giubileo a Roma, un sacco di turisti in ascolto, ma il latino ci parlerai tu. E tre quarti della palazzina tua. E tre quarti della palazzina. Per cui... Bellissimo questo. Per cui tu dici, parliamo bene. Ego, sì, prefiero hablar en otra lingua. Ma tu parli adesso, guarda che se ti fermi prima che uno capisca se veramente parli quella lingua. Bravo, tu sei come tu me. Sei furbissimo. Dice, Pino sa ballare. Senti, no, io quest'acqua che abbiamo qua puoi sopra, berla. Posso bere tua o sì. mia? No, è tua, questa ah, è tua, fantastico. È dell'ospite. Niente di meno che date pure le bottigliette d'acqua. Sì, sì. No, perché l'Italia è in crisi, sapete. No, per esempio in Rai non danno manco. Se muori ti danno un goccio d'acqua. Solo il caffè invece... se conosci i tecnici no, che lo fanno loro. Ma lo pagano loro. Sì, esatto, appunto, sono non gentilissimi. È che te lo fa... No, solo se li conosci e ti vogliono bene. Allora, i nostri amici tecnici, operatori. Sentite, no, non fai gargarismo. No, Marisa! No, ma perché siamo in un programma della voce, mi stavo schiarendo la voce. No, perché così. È basilare che la mia voce sia fantastica. Io dall'altra parte del vetro, il nostro Anzi. Valerio, tecnico che sono, che io saluto. Sì, ciao che... Valerio. Valerio che Scusa. Sta ridendo insieme a Gaia, la nostra capautrice Alessia Navarro e Damiano. Ciao dall'altra Valerio. Parte lì Fabiani. Ciao. No, Alessia. Valerio, ma no, non puoi salutare Ciao. Tutti no, nello stesso posso. Modo. Ah, no? Allora, ciao Valerio. Ciao Alessia. No, ma scusa, ma qua stiamo facendo Voice Anatomy o no? Lei sentì, la trasmissione così sta equiparando a tutti gli ospiti, attori, doppiatori che si alternano su scusa. Questi microfoni. Sta facendo un provino, cioè praticamente vuole sì. essere presa da qualcuno. Per adesso sì. ci stanno prendendo in giro. Ma chi? Come? No, nessuno. Ecco. Anzi, arrivano già dei messaggi di grandi complimenti. Grazie. C'è una persona che poi vorrebbe farsi sentire la voce, potete chiamarmi qui. Ci ha lasciato il numero. Buon lavoro, Chiamiamolo Luigi. Chiamiamolo subito, Luigi. No, te buono. Parisse, complimenti a te e alla tua acconciatura, anche se non si vede. Non si vede Luigi. No, però Luigi, ce l'avrà presente. Ma no, l'ha detta un'altra persona. Ah, un'altra persona. Scusa, ma scusa, ma tu... No, vabbè, io volevo fare. Che esatto, grazie. Grazie. Pensa che i nostri autori, sì, vanno, cioè, cercano delle domande anche belle per sapere qualcosa di più. Tu io invece qua sto. Ho capito, ma tu parli tutte le lingue del mondo. Io volevo sapere anch'io delle cose. A me piaceva questa storia dei tuoi 8 anni. E poi la tua carriera con De Filippo. Insomma, 6 anni di lavoro in teatro e in televisione con De Filippo. Mica sono pochi. Con grande Edoardo. Non potevo cominciare meglio. Hai veramente cominciato così, eh? Ho cominciato così perché io l'ho inseguito, spiato. Una stalker. Disperatamente, con una stalker, veramente. Perché io volevo fare un provino. Devi sapere che ai miei tempi. Quanti anni che avevi, non ne ho. Tanti, voglio sottolineare, però ai miei tempi si diventava maggiorenni a 21 anni, sì, quindi vero. Ho dovuto studiare fino a 21 anni perché mio padre era terribile, era un dittatore proprio, e allora ho studiato fino a 21 anni e sono venuta anche a Roma. Università o liceo? Università, perché, beh, certo, scusami, a 21 scusami. Anni, per forza. No, vabbè, tutto no, no, perché e allora ho pensato che, ma a parte che mi piaceva fare psicologia, sì, però ho detto psicologia la faccio perché sta a Roma. Certo. E quindi sono tra loro, la possibilità anche di fare altro. E insomma, quindi niente, aspettavo e inseguivo Edoardo fino a che lui mi ha dato, e questo sa di magico proprio nella mia vita, mi ha dato la data per fare il provino esattamente il giorno in cui io compivo 21 anni. Ma che bello! È stato meraviglioso. Cioè, ma come l'hai braccato? Io ho potuto firmare il contratto. Ma come l'hai braccato? Come l'hai convinto? Beh, ci sono vari modi. Hai sciolto i capelli? No, non li ho sciolti. Non hai sciolto i capelli? Perché non ce li avevo sciolti, ma poi con Edoardo c'era poco da sciogliere, veramente, perché era terribile. No, è stata tutta una cosa di delle situazioni, perché io gli rompevo le scatole. Un mio amico Sergio Solli, che stava già in compagnia, mi disse fanno i provini, e quindi sono arrivata lì e lui aveva questo vestito blu bellissimo, con una camicia rosa, col colletto rotondo come si portava proprio. Mi sa che spostava l'aria st'uomo, nel senso che l'intensità. Lui stava dietro la scrivania e mi ha fatto una specie di intervista, ma io non riuscivo a fiatare e guardavo solo la sua pelle, che era rosa dello stesso colore della camicia. Perché sì, perché aveva messo talmente tanto trucco negli anni, aveva i pori molto larghi Edoardo, che questo trucco, anche se tu se lo si struccava, tu non si toglieva più, quindi aveva questa faccia meravigliosa. Poi mi ha portato in palcoscenico e mi ha detto che avete pagato, io non lo so fare. No, e sì, direttore, ho fatto il monologo da Non ti pago di Donna Concetta. E lui con la mano mi fece cenno di cominciare e io feci tutto questo monologo bellissimo. Come comincia? Te lo ricordi ancora? E come no? E ha ragione, sei cattivo, sei perverso, sei malvagia, si sangue pimmace. Tu allora si contenti quando può torturare la gente, ov'è? Ma se io potessi fare con che quei spille, sarebbe felice. Uè uè, ma stai sempre buono e saluta. Non ti viene mai un dolore capa. Miette, te ne avendi nei giorni rindolietta. Così stavano poco, grazie a Dio, tutto quanto. Vabbè, e basta, lui ti ha detto la lasci la foto, subito. Le faremo sapere. Ecco, no. E lui mi ha detto: venite sempre questo con me in camerino, seguitemi. Allora io ho detto, mi portava in camerino con lui, ho detto: questo non mi vorrà dire, io pensavo, non mi vorrà dire che faccio così schifo davanti a tutti, certo. Me lo vuole dire in privato per non farmi piangere davanti a tutti. E invece? Invece lui prese questo copione e cominciò a dire: allora ferramento, come lo possiamo sostituire? Ferramento, al posto di ferramento mettiamo maniglia. Insomma, cambiò tutte le parole che avevano la R con parole senza la R. Che io poi non capivo niente mentre lui mi faceva tutto questo, ero completamente impallata. E dopodiché la parte non era grossa, erano 4-5 battute, quindi potete sostituire tutte queste parole. Non è che era un copione interno, non dovevo fare la protagonista. C'era porta i ferri della finestra, no, per favore, e hanno cambiato esattamente. Questo. Esattamente. E per cui però t'hanno preso, poi, è stato l'inizio. E poi mi disse: potete passare dall'amministratore. E io scendevo le scale del Teatro San Ferdinando, che era una chiesa, si doveva stare in silenzio terrificante, in lacrime, perché ero talmente felice che piangevo dalla gioia, e saliva Luca De Filippo. troppo in quel momento. È il grande Luca. E Luca, anche lui lo salutiamo ovunque sia. Che ci ha dato un grande dolore, purtroppo. Però a te non ti salutiamo, perché adesso ci salutiamo noi un minuto soltanto e poi torniamo in compagnia di Marisella, nostro babbo. A tra poco con Voice Anatomy. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Voice Anatomy. Bentornati qui in studio con Marisella Laurito in tutta la sua effervescenza. In direzione di Nola verso Muffi c'è stato un incidente terribile che ha bloccato la strada e ha creato un dirupo molto profondo. Ma perché lo fai sempre sensuale queste cose? Cioè, perché questa era sensuale. Eh sì, tu non puoi dire stato un incidente. No, ma mi sembrava che pure il signore prima di me. Ma non è così. No, tu senti così, no, non è così. Ma ti pare lui che ha fatto così, lui ha fatto così, io l'ho sentito. Tu devi dire. Lui così ha fatto. Ma devi essere oggettiva, se vuoi fare la giornalista. Ma tu allora non l'hai guardato, non l'hai sentito bene. No. Quello ha detto c'è un grande traffico sulla statale, lo dobbiamo rimandare? Non lo so, non si può perché era in diretta. E allora niente. Ma non è così. Vedrai il prossimo. Fallo oggettivo. Adesso ti prego, la prossima volta che quello lo dice, di guardare bene, di sentire bene. Ma non è quello, intanto è un giornalista, quello lo signore, sì, quello, non lo conosco. Ho capito, ma non è quello. Era un uomo. Sì, quello è sicuro. C'aveva la voce da uomo. No, se no una donna con forte raucedine. Esatto. Sì, e voi sanatomi. C'è stato appunto anche un grande professore, Diego Cossu, che cambia le voci. No, non lui, con un'operazione. Sì, un'operazione riesce. Diego, con chiamami e cambiami questa voce. Fammela più frizzante invece che così Alessia Navarro mia, tu che hai perso del tempo a cercare le cose, le condite della vita della Laurito. Esatto, ha perduto tempo. No, guarda, invece abbiamo parlato di teatro con il grande Edoardo De Filippo. Come sei entrato, come hai fatto il provino, ti hanno preso e poi da lì sono stati sei anni. Da lì sono stati sei anni meravigliosi perché ho imparato tutto. Devi sapere che io quando ero piccola non potevo vedere le commedie di Edoardo in televisione, mi era proibito perché c'era Carosello. E allora io mi avvolgevo in una tenda in casa e mi nascondevo col pigiamino dietro questa tenda perché io li adoravo. Perché sai, c'era Filomena Marturano, io avevo 10 anni, non si poteva vedere perché era scandalosa. E invece così mi è tornata utile quell'avvolgermi nella tenda, perché quando ho fatto questi 6 anni di teatro con Edoardo io mi avvolgevo nel sipario, perché era vietatissimo per un attore stare in scena quando non doveva lavorare. Quindi dalle quinte non si vedeva, non potevo stare perché c'era una regola della compagnia che diceva che l'attore doveva entrare in scena 5 minuti prima di entrare in scena. Prima non si poteva, quindi io mi avvolgevo in questo pesante sipario e ti nascondevi lì. E mi nascondevo perché volevo guardare Edoardo tutte le sere recitare. Che bella ed cosa. Era meraviglioso perché lui modificava delle cose e là imparavi molto. E poi imparavi anche nelle prove. Perché... E poi dal teatro sei passata come niente fu, come nian fus, al cinema. Eppure il cinema non è che sei stata con gli ultimi della terra in fin dei conti, no? Però sai che all'epoca il cinema si producevano 500 film l'anno. Sì, si facevano 100 western, cioè, all'epoca, ragazzi, io sono giovane. Anni 60. Anni 60. No, di più. 70. 60 ero piccolissima. Ma che sì, no, veramente. Quello è vero che eri piccola. Ah, ma quello è scemo. No, ma sei pazzo. Si dice per radio. No, si dice che sei scemo. Io negli anni, non voglio dire quando sono nata perché... Ma... si ha l'età che si ha ed è quella che si dimostra. Io dimostro, mi sento perlomeno 28 anni minimo e massimo 40. Guarda, ma non di più. Ma non no, ma è più. Vero, ma guarda che l'autoironia, che per molti è una macchina, no? L'autoironia invece è una cosa che salva il mondo. Molto, salva molto. Siamo i primi a riconoscere i difetti che abbiamo. No, però veramente negli anni 70. Negli anni 70 si giravano, in Italia si producevano 500 film, quindi i registi che erano fantastici, perché stiamo parlando Monicelli, Steno, Ponzi, Nanni Loi, Salvatore Nocita, Maurizio Ponzi, Steno, Luciano De Crescenzo, sto dicendo i nomi. Delle persone con che hai Bucci, Sergio. Grande Sergio, poi ho lavorato con Manfredi, con Tognazzi, prendevano attori dal teatro, quindi non era attori che c'avevano l'Empals soprattutto, l'Empals, cioè gente, che, gente che dice madonna, ma fa questo di mestiere, di mestiere, e invece esatto. Magari adesso un po' è cambiato, quello assomiglia a un idraulico e fanno fare l'idraulico, quello assomiglia a un assassino gli fanno fare l'assassino. Qualcuno lo fa anche bene, devo dire. Sì, no, però... no, non voglio generalizzare, ovviamente, però, c'è gente insomma, preparata. Certo. Però prima ti guardavi intorno e trovavi solo gente con tanta empatia. Ma era molto giusto questo, perché i mestieri sono i mestieri che vanno, come dire, protetti. Assolutamente. No? E io mica mi metto a fare l'idraulico. No, io rispetto sempre tutti e tutto in questa cosa. La televisione di adesso, generalista, ha cambiato un po' le regole del gioco con questi talent e questi che rimangono chiusi 2 mesi dentro un appartamento a nominasse, quando escono dall'appartamento vogliono fare gli attori. Allora io dico, chissà tutti quelli arresti domiciliari quando escono che dovrebbero fare. Si ammasserebbero un po' tutti, no? E allora così, quando è stato l'inizio del cinema invece? Con Edoardo è stato l'inizio del teatro, uno startup pazzesco. Il cinema, il primo film l'ho girato con Vittorio Sindoni, che mi chiamò per fare un ruolo di protagonista femminile, e c'era il grande Stefano Sattaflores, Leopoldo Trieste, fantastico attore, vero. Straordinario. Sono quei grandi attori che non hanno mai fatto i protagonisti, ma senza di loro il cinema non si poteva fare. Leopoldo è stato in dei film meravigliosi. Tutti, anche Il Padrino. Meraviglioso. Anche Il Padrino era uno straordinario, dei... straordinario. Andatevelo a cercare, Leopoldo Trieste, ormai su internet c'è qualsiasi, guardatelo, guardate, ah, vedi, o come Stefano Sattaflores che ci ha salutati troppo presto. Esattamente, come altri, però insomma ha lasciato delle cose molto belle. Sì. E poi subito dopo mi chiamò Corbucci per fare un provino per La Mazzetta. Sempre per la protagonista femminile della Mazzetta, con, che ho girato poi con Tognazzi e Manfredi, e con Manfredi Nino, che era straordinario anche lui, completamente diverso da Tognazzi come carattere, perché Nino era precisissimo e quindi mi invitò a casa sua a leggere, il a leggere il copione, e abbiamo letto il copione per 15 giorni e io gli devo moltissimo, perché, perché ero all'inizio del cinema e mi spiegò il campo, il controcampo, il primo piano. Insomma, è stato tutto l'Edoardo De Filippo del cinema, è stato Nino Manfredi. E lì ho conosciuto a casa di Nino, e non me lo dimenticherò mai, perché ancora oggi ce l'ho fisso nella mente, Luciano De Crescenzo. Anche lui con uomo. Un bel vestito blu. Beh, lui sempre elegante. Era bellissimo ed era elegantissimo. Era di fronte a una vetrata, io sono entrata anch'io vestita di blu, perché io usavo, non avevo molti soldi, quindi compravo dei vestiti quelli usati, no? quelli usati ma prima c'era di questa. Seta, sai, degli anni 40. Non erano i suoi, diciamolo questo, no, non erano i tuoi anni no. 40, erano, no, non erano, no, erano usati. Ma tu che stai, no, per che dare vuoi, anche che vuoi sottolineare? Non voglio insinuare niente, dico soltanto per la gente che si fosse messa in ascolto adesso, Marisa. Si compravano erano, i vini. Vintage all'epoca, vintage. Yeah. E quindi si compravano questi vestiti. Io avevo un abito blu di seta con delle foglie bianche, e Luciano si voltò, pure lui era vestito di blu, insomma siamo diventati amici subito. Quindi vado un messaggio a proposito delle tue cose, ne arrivano tanti, ma questo mamma 80 anni che lava la frutta, papà coetaneo si avvicina alla bacia, tu la passeggio nei campi Elisi magari baruffando, voi la caciotta, la pettinatura che preferisco, io non posso perché non reggono. Cioè, un messaggio, vabbè, sulla... un messaggio su. Sì, tanti auguri, eccetera, eccetera. Chi lo manda? Ciao Pino, Maria Laura. E voglio incontrare insieme Maria Laura. Maria grazie. Laura, vieni qua che ti presento Pino, che ti vuole conoscere dal vivo. No, proprio. Che c'entra? No, no, questa no, perché di magari. Dai, senti, guarda che terrificante, è terribile sta signora. Prima De Filippo, sì. E quello era il teatro. E lo startup è Manfredi, diverso da Tognazzi, perché Tognazzi è un po' più Tognazzi gastronomo. Era gastronomo, si godeva la vita, arrivava quando voleva, no, sempre puntuale, però era proprio, come dire, gudurioso, la grande abbuffata. E invece poi la televisione, è inutile raccontare quello che hai fatto, è un altro sodalizio importantissimo con Renzo Arbore. Arbore. Con l'R così. Napoletano con l'R ci sta, perché sembra un po' più di Parma ogni tanto. Sì, sì. Ma guarda morbida. Che abbiamo fatto una cena che ho raccontato, che non posso raccontare adesso perché è lunghissima, ma una cena a casa di Agnelli con Arbore, io, Marella guarda Agnelli. Guarda che ci stanno sentendo, sì, lo so, ma è la radio di Confindustria. E l'avvocato, avevamo tutti la R moscia, anche i cani. Gli Askin. non c'era uno che non avesse la mia voce. È vero, che cosa, Agnelli, tutti con R. Tu così, però tu c'hai questo populismo popolare. Io poi non sono mai riuscita a togliere, perché guarda, non questa si toglie, R. Questa non si toglie. No, si toglie. Mm. Ma guarda, questa R moscia a me mi ha portato delle tragedie, perché non mi voleva nessuno quando ho cominciato a troppo recitare. Troppo caratterizzata. Sei tu. Io sono andata anche da un locopedista, qua lo posso dire, perché sì, siamo sì, a Voice Anatomy. Esatto, è venuto anche un locopedista. Io sono studiosi. Andata e lui mi ha detto: guardi, deve prendere questa macchina, perché lei c'ha la punta della lingua che non vibra e non si indurisce, non c'ha il muscolo. E quindi le deve mettere questa macchina con due linguette. Stiamo parlando della R moscia di Marisa Laurita. Sotto la punta della lingua che la facevano vibrare. Una costava macchina? Questa macchina all'epoca 2 milioni di lire. E io non c'avevo manco una lira. Una macchina che vibra sotto la lingua. Sì. Ma io non allora questo locopedista disse: vabbè, se non lo può comprare, se non la può comprare, compri un vibratore. Va bene, allora adesso io chiedo, no, se qualcuno... la volevo raccontare questa storia. Ma racconti dopo, subito dopo. Sì. Se c'è qualcuno in ascolto, logopedista, vero? Sì. Scienziato della voce, eccetera, mi chiami per favore. Sì, te lo all'824-0024 per capire se è vero che esisteva questa macchinetta e fa vibrare la lingua. A tra poco con Voice Anatomy e ancora Marisa Laurito. Sia un Natale emozionante, che fa storia. Beh, un Natale di cuore. E perché no? Anche di denari. Che questo sia un Natale di speranza, che dopo arrivi anche la Befana. Un Natale da raccontare. Radio 24. La passione si sente anche a Natale. Sanatomi. Eccoci di ritorno, immediatamente do la parola a Marisa Laurito che ci stava raccontando a proposito di Voice Anatomy, che lei la segue molto lo studio della voce, per cui questa R moscia mi ha dato molti problemi. Molti problemi, quindi questo locopedista mi disse: vabbè, se non può comprare questa macchina che costava lei dice tanto, che c'è una macchinetta che vibrando, facendo vibrare la sotto lingua sotto la punta della lingua, perché io ho questa R perché no, la mia punta della lingua non vibra no, anzi, no, e allora mi disse vabbè, provi con un vibratore. Allora, ma come, tu capisci ma che all'epoca ma anche adesso sì, vabbè, ma adesso onestamente no, trovi dappertutto i vibratori. Come no? Ma come no all'alimentare? Ma no, te lo ma danno voglio anche dire, dopo i ragazzi è più easy, no? Sì. Ci sono i porno shop, che ne so. Sì, ma non è, qui stiamo parlando di un problema di locopedia. Appunto. Per cui c'è ma tu capisci che io facevo l'attrice e non sapevo, volevo togliermela questa R. Allora andavo in farmacia e dicevo: senta, mi dia allora due pacchetti d'ovatta, un'aspirina e delle gocce di camomilla e un vibratore. E quello diceva: come, scusi? Un vibratore. E allora il farmacista: sì, ma di che misura? No, dico, no. Allora io dicevo: no, guardi, la misura non mi interessa, perché io lo devo mettere sotto la punta della lingua. Cioè è peggio ancora, cioè una tragedia, fino a che un mio amico carissimo me lo comprò lui. E dato che l'esercizio andava fatto circa 6 ore al giorno, io tutti i momenti liberi che avevo questo vibratore sotto la punta della lingua. Ma come si fa? Come sotto la puntina. E allora beccai mio padre in casa mentre io camminavo, che già non voleva che io facessi l'attrice. Ti lascio immaginare la scena, che io nel corridoio con questo vibratore sotto la lingua e mio padre allibito diceva: che cos'è questo oggetto? No, dico: papà, guarda, io ho la punta, perché la spiegazione era peggio. Certo. Papà, ho la punta della lingua che non vibra. Si muove, che non vibra e quindi ho bisogno del vibratore. No, vabbè, non era possibile. E da lì si è aperta la carriera con Riccardo alla Schicchi. Alla fine, poi, no? Quando io poi andavo, non sapevo più dove farlo sto coso del vibratore, allora lo facevo in macchina. Certo, meglio. Beh, perché non nessuno, poi. Ma no, perché erano i momenti morti, non fosse mi spiegata. No, no, ti non sei spiegata potevo benissimo, andare in macchina col io vibratore. Dovevo anche lavorare e quindi in macchina mentre uno guidava io stavo col vibratore. Certo. Mi guardavano tutti. È strano. Guarda, queste sono cose strane nella vita. E io abbassavo il finestrino e dicevo: è per la lingua. Che mi ero stufata anche di spiegare ma tutto. Ha fatto effetto questa cosa. Vabbè, insomma, alla fine ma mi sono tu dovevi stufata. Parlare mentre vibrava per ma capire non hai capito niente. Tu non puoi farlo, voi stanato. No. no, io no, no, non, lo puoi non posso fare, farlo soprattutto no. Io e te non lo capisci fare. Io sono la io... punta della lingua sì. Non vibrava quindi questo vibratore gli faceva è come se tu c'hai un muscolo che lo metti in moto, no? Sì, va bene, ecco. Allora, ma è possibile. Allora abbiamo parlato di queste anche queste voi... fatica, no lo guarda. So è vero anche queste voi sanatomi però io vorrei che intervenisse qualcuno dei grandi dottori o scienziati della logopedia e della voce che sono stati anche per allora abbiamo ecco. Parlato un po' di tutto, no? Ma tu sei stata sì. Una prima donna straordinaria, no? Non ma... c'è male no, non c'è male, ma guarda. Senti, hai lavorato con dei sex symbol, grazie. Adesso a parte oggi, sì. Leva il fatto che anche sì. Oggi ti stai accoppiando in una trasmissione con... Accoppiando, no, che modo di dire? Hai parlato dei vibratori fino adesso, vabbè, purtroppo sei... mi abbino anche vocalmente sì. A quello che sì. Stai dicendo sì. Tu hai lavorato con Antonio Banderas e non sì. Certo per le clame dei biscotti. No, no. Hai fatto no. Un film in particolare. Io ho fatto un film che mi hanno dato anche un film drammatico, con un ruolo drammatico. Ci credo. Io ho vinto anche un premio. Il premio come protagonista femminile straniera in due festival. Uno di Bogotà e un altro proprio di New York City. No, senza New York, è New York. No, io ho detto New York. No, hai fatto New York City. No, no, io ho detto New York. Facciamo risentire la registrazione perché andiamo in diretta, ma possiamo anche tornare. New York City. Ah, sede. Sede. C'è sede, yeah. Bevi l'acqua. È bevo l'acqua. C'è sede. New York City. E io non c'ho sede e dico sede. No, vabbè. Sede. Perché io parlo slang. È vero, tu sei tu un sai cosa vuol dire slang? Esattamente, no, immagino che sia la parte anche più... i francesi, se, i francesi mica dicono oui, come diciamo noi. No. Fanno, mi oui, mi oui, c'est normal, ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Fanno oui. Uè, perché sono di origini non fanno sono di origini perché è slang. Ah, è slang non napoletanizzato è come dire, non è, no proprio così non uè. Dicono oui oui tu dico. Come diresti oui oui sbagli sbaglio uè. Uè. Uè. No uè. Uè. No uè, uè è un'altra è cosa napoletà, invece è napoletano quindi dicono uè. Uè. Se normal uè se normal uè. Cioè, e vabbè, basta. No, guarda, no, io va bene. Voglio... No, lo so, io pure non voglio più non lo intervistarti. So io, guarda. Uè, e invece l'americano, lo slang americano. Yeah, dico... right, yeah. Cos'è? Yeah. Sono Ciara Uccetti. Come here, please. Come here. Yeah, come here. Questo è un italo americano. No, it's slang. Questo è slang. Yeah. Cioè, quando tu parli una lingua sbagliandola, yeah. È slang. It's, no, it's correct. It's like people. It's normal people speak like this. Senti, dall'altra parte del vetro ci ha sì. Raggiunto l'ospite yeah. Che verrà dopo, che è un grandissimo sì. Attore, doppiatore, yeah. Direttore di doppiaggio, che è Sandro Acerbo, wonderful. Che è la voce di Brad Pitt, Will Smith, nice. Nice. Lei subito oggi sesso. Cominciato, no, sospirando. È... No, vabbè, ma sì. Scusa, io ora sto interpretando. Allora proprio tu non mi vuoi far lavorare fai nel vibrare doppiaggio. La lingua? No, così non ce lavori. Scusa, ma io sto facendo proprio l'americano slang, non scusa, la voce Sandro, rauca. Scusa, interverrai, di... ma è slang questo o è una che non parla bene americano e le lingue? Slang. È slang. It's normal, you don't know, you don't know. Io per esempio you ti dice know. No, you know, uno non dice you don't know. No. You don't know. You don't know. Ecco, guarda. Vabbè. Sono una logopedista con la R mosce, non sono mai riuscita a rieducarmela. Vabbè. Grande Marisa, ciao da Lorenza. Grazie Lorenza. Per cui se la logopedista non ha parla, fatta. Non ne ha fatta e non parla io di ne... vibratori. Ma poi meno male che non me l'ha sottolta perché poi comunque è andata caratteristica, benissimo. Esatto. È una caratteristica. Senti, a proposito di caratteristica. Poi anche i fruttivendoli a Napoli ce l'hanno tutte la R mosce. Sì, non è che per fare un fruttivendolo, no, dico un fruttivendolo per dire sì, uno del qualsiasi, popolo, certo. Non la contessa. Cioè, hanno l'R mosce al mercato. Hanno, hai voglia, quindi anche un fruttivendolo la può avere l'R mosce. E come vendono? Cioè, voglio dire, no, scusa, anche io se facessi la parte di una fruttivendola sì. La potrei fare con la R mosce. Ma tutti possono fare, qualsiasi. A me piacciono i fruttivendoli, non è che sto dicendo. No, ma non ce l'hanno i fruttivendoli, no, forse spero che piaci tu a loro, ma sicuramente sì. Sicuramente, tu sei, io compro sei... della frutta meravigliosa ma sempre. Si fanno come attrice. Cioè, a proposito di cibo. Madonna, che fatica a parlare con te. Ah, con me! A proposito di cibo, Marisa, sì. Tu sei, no? Dai che bevi. Io sono una cuoca. Tu sei cuoca. Brava. Ma brava. Yes. Sì, sono ma bravissima. Come, che cosa fai di buono? Qual è la tutto, tua specialità? La pasta la adoro, perché la pasta è come avere una cosa bianca su cui, una tavolozza bianca su cui tu puoi dipingere. Ma questa, capisci? Metafora straordinariamente la teatrale. La pasta è una cosa dove tu puoi metterci tutto sopra. Quindi pensa che solo a Napoli, ma solo nella città di Napoli, sì, ci sono 543 modi di cucinare la pasta. Sughi. 543 sì, modi? Sì, ma solo a Napoli. Non parliamo della provincia, non parliamo. Ah, in Italia siamo straordinari, abbiamo una cultura culinaria pazzesca. Quello quindi, sì, infatti, per favore. Tu hai fatto delle trasmissioni sul cibo molto, certo, prima di tutti molto questa, prima. Io ho questi fatto grandi una cosa fuochi, Casa su... Laurito, Pasta Love e Fantasia. No, ma addirittura feci uno sketch in fantastico con Celentano, è vero che tu dove fatto... cantavo e un balletto dove cantavo, mm-hmm, e cucinavo, perché sai che portavo quelle acconciature, sì, meravigliose, sì, con i pomodori, il prezzemolo, e mi tiravo via dall'acconciatura un po' di prezzemolo, un po' di pomodoro per affettarli e metterli. È nella... vero, è vero. Che poi fra le cose che volevo raccontarti, è ovvio, ma la gente lo sa, la cosa più bella è scavare intorno e dentro un personaggio, perché bene o male gli spettacoli che hai fatto sono lì, da Baudo, ovviamente a Celentano. Celentano, straordinario, un artista puro, meraviglioso, Arbo che non ne parliamo. Nella quotidianità è così silenzioso, Adriano? Adriano parla moltissimo. Esatto, no, è silenzioso, immagino, solo quando si dimentica le cose. Ah, ecco. Ma meraviglioso! Ma lui mi fece questo scherzo terrificante, alla prima di Fantastico, non si capì, tu poi hai fatto, fai televisione, capisci? Io avevo una batteria, perché io facevo la parte della soubrette elettrica. Sì, e avevo una batteria in mezzo alle gambe di 5 kg, perché purtroppo all'epoca non c'erano queste, all'epoca, anni 80, anni 80, no, all'epoca, ho capito, ma tu parli degli anni 85, 20, anni 30, anni 40, però c'erano queste batterie pesantissime che io mi tagliai, perché disperata, perché per i suoi, per le dimenticanze di Adriano saltò tutta la scaletta, certo, per cui tu sei noi, rimasta con questa batteria. No, noi dovevamo saltare sui cavi, non si capiva più niente, le cioè diventò diretta allo stato puro anche per i cameraman, certo. Quindi io mi tagliai questa batteria di 5 kg perché non potevo più e il vestito rimase senza luce. Senti, è vero, si accendeva con la luce. E che differenza c'è fra quella televisione e quella generalista di oggi? Mamma mia. Vabbè, questa... che ne vogliamo parlare? No, è inutile, è finito il discorso. Si faceva spettacolo, capisci? Eravamo chiamati perché sapevamo ballare, cantare, recitare, essere spiritosi, parlare italiano anche, perché anche quello era importante, certo. C'era discorso creatività dell'epoca, esatto, professionismo, gli autori, ognuno aveva una sua caratterizzazione professionale, qualificazione professionale straordinaria, e oggi invece si fa spettacolo con i caratteri veri. Cioè, sì, come era il cinema, come diciamo prima della fiction, sì, la differenza, appunto, è quella. Che cos'è che non rifaresti, Marisa, delle cose che hai fatto? Oppure lasciamo tutto così? No, io dopo Domenica In, che fu un successo travolgente, si parlava di altre cifre, 12 milioni di ascolto. Sì, erano ascolti veri. Pazzeschi. Anche perché non c'era granché dalle altre parti, bisogna dire anche questo, però la gente, sì, si affezionava, ma era comunque di qualità, attenzione, di grande qualità. Era comunque qualità, e mi offrirono di rifarla e mi offrirono di fare qualunque cosa e io rifiutai, perché c'era questa questa idea di che quando facevi un successo poi dovevi scappare a gambe levate, sì, per non rovinarlo, insomma. Lì forse ho sbagliato, non lo so, forse a livello economico uno può sbagliare, no, ma a livello, ma artistico forse, no, sarei, non bisogna so saper dir di no, sai, certe volte non sappiamo dirlo. Senti, visto che sono rimasti gli ultimi, sì, minuti insieme, sì, voglio invece sottolineare quello che stai facendo adesso, sì, che è sempre tanto. Tu nel teatro poi hai abbondato con i musical, sì, eccetera eccetera, cabaret burlesque, anche Aggiungi un posto a tavola, sai che non sapevo che hai fatto, sì, un'altra riedizione, me l'ho dimenticato, e ho fatto un'edizione bellissima con Gianluca Guidi, è stata un'edizione meravigliosa con la regia del grande Gino Landi, e c'era Lander, anche Johnny Dorelli, che veniva a, come dire, poi a, papà darci, di Gianluca, sì, no, che, a darci delle dritte, quindi è stata una bellissima edizione. Invece adesso sei impegnata con lo spettacolo Sud and South, sì, questa pronuncia and South, sì, in concerto, sì, è uno spettacolo con Charlie Cannon, cantante straordinario, black, ex straordinario, cantante dei Platters. Ma lui Charlie. È straordinario, Charlie è una persona fantastica, una voce fantastica, meravigliosa, sì. E poi ha la stessa mia energia, così fantastica, siamo sì, lui benissimo non ha età, insieme. Charlie ha la stessa faccia, quando lo conosco sì, anch'io. Come me, d'altronde ovviamente. Sì, è vero, te lo volevo io dire, no, ma alla fine dell'intervento. Non ti preoccupare, ti ringrazio. Lo dico io. Tu dal 16 al 20 dicembre sei al Teatro Diana di Napoli, un altro sì. teatro storico. E io vorrei che come la gente, nasce questo ecco, vorrei che veniste a vederlo, perché questo ha delle radici profonde che nascono da 900 napoletano. Un altro musical che io ho fatto sì. tanti anni fa e col quale siamo stati in giro nel mondo, proprio a Buenos Aires, New York, vabbè, insomma. E allora perché io sono una appassionata del sud, e allora ho detto perché non allarghiamo a tutti i sud del mondo. Bella questa idea. E quindi abbiamo fatto questo spettacolo dove cantiamo tutte le canzoni dei sud, quindi sud America, spagnole, napoletane, e parliamo delle differenze fra i nord e i sud, che poi incredibilmente sono veramente quasi tutti uguali, per cui anche parlato, insomma, è recitato, sì, non anche, è soltanto cantato, no, è insomma. Parlato e chiacchierato, come dire, un concerto con chiacchiera divertente, però sono particolarmente felice perché è uno spettacolo che ha già debuttato e che è piaciuto moltissimo e ha un fascino pazzesco. A Roma venite? A Roma verremo l'anno prossimo. Un'altra cosa ti ha portato, adesso per chiudere, un'altra forma d'arte, tu sei diventata una visual artist, se non yes, sbaglio, e a Roma artist. Il 15? Sì, al Lotto Art Design faccio una mostra che raccoglie un po' il lavoro di questi 5 anni. Io dipingevo da quando ero giovanissima. Ma che te manca, Maria? Che te manca da fa? Ma sai, non si può mai sapere nella vita. Ecco, come è cominciata domani. Sessualmente, Marisa Laurita. Chi può dire sensualmente mai? Chi può mai dire mai? Niente, no, non... Forse posso diventare ecco, una... Appunto. Una cosa? Porno star. No, Marisa, no. Che no. Ha 80 anni, no. Chi può dirlo? Tutto, magari ecco, stanno piace... tornando. No, falli parcheggiare sbagliato. Sotto a Piazza Indipendenza. No, proprio. Perché a 80 anni è molto carino sì. Diventare porno star. No, ma questo perché non no? Puoi lanciare come ultimo. Abbiamo parlato di Edoardo De Filippo, so, Arbore, Manfredi. Ma sei tu che mi hai detto che ma ti no, manca. Ma che... Mi manca di diventare una porno star. Ecco. O posso fare la porno star o devo fare la cantante rock. Allora adesso fuori il cartello, quando sì. Se ne va ci scriviamo Marisa Laurito, porno subito. Porno. Va bene. Allora noi salutiamo la grande. Tu puoi fare Marisella. Il mio ti doppio. Ah, no, doppio. Ti doppio perché se facessi il porno star sarei un comico anche no, là. Ma verso, per cui stai verso gli 80 anni, mica prima. Sì, così ci puliamo gli occhiali. Allora, sentite. Ma guarda come fai a arrivare a quest'ora, mica ce l'hanno via da qui. Quest'ora, ma guarda che presto, signori, figurati apposta più tardi, Radio 24. Sì. Voice Anatomy. L'hai fatto sensuale. Hai fatto proprio no, vabbè. Radio 24. Ti prego Valerio, aiutami, andiamo in pubblicità. Fatto, sto cacciando io, sto picchiando Marisa. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Voice Anatomy. E stavamo salutando la grandissima Marisa Laurito, sono le 15, 16 minuti e 17 secondi, sempre Radio 24, sempre Voice Anatomy, è stato un momento veramente divertente, anche interessante, per carità. Enrico da Bosco Reale dice, ciao Pino, ricordo quando Marisa, in Marisa la Nui, con il telefono a banana, poi quando cantava il babà, saluti vulcanici a tutti voi, ciao. Hai capito Marisa, se mi stai ancora ascoltando in corridoio, ormai hai lanciato questa sensualità delle 15 del pomeriggio. Ma a proposito di sensualità, ci ha raggiunto, come ho anticipato poco fa, una delle voci più belle del panorama del doppiaggio italiano e ovviamente anche come attore, anche perché abbinata a questa voce ci sono dei corpi che non so se sono più sensuali della voce, se la voce li rende più sensuali. Nel mio caso no. No, ma no, ma non ti vedo, ma che ne sanno di noi? A me mi conosco purtroppo, non si dice, perché sennò mi chiama il solito amico che mi corregge, perché io dico ogni tanto laico e lui mi dice no, questa è una radio che sono tutti molto attenti, è profano Pino, ti prego, e ogni tanto mi corregge su altre cose. Vi racconto un attimo questo signore che nasce a Roma, si può dire quando perché è un ometto, per cui il 5 settembre del 55, tutto 5, meno se, era, 5. Se era maggio era bello, sì, 5 sì, maggio sì, 53, sì. 5 maggio poi è anche una bella storia e poesia, attore, doppiatore come detto, dialoghista e direttore di doppiaggio italiano. È notissimo anche per essere soprattutto la voce ufficiale di Brad Pitt, qui apriremo una parentesi più tardi visto che ce l'ho in diretta. di Michael J. Fox e Will Smith, eccetera. Leggo, e non lo sapevo, che sei figlio di un artigiano. Papà era un artigiano, sì, diplomato. Sì, che sì. Cosa faceva papà? Papà era un fabbro, di quelli che non ce ne sono più. No. E niente, lui era un lavoratore del ferro. E che bello. Io racconto un piccolo aneddoto. Nel nostro mestiere succede che a una certa età c'è il famoso cambio di voce, no? Arrivi ai 13 anni, 14 anni. L'adolescenza che improvvisamente parli, che c'è la voce che sembri, no? E ovviamente il lavoro ti cala un po'. Allora mio padre per aiutarmi mi dice: senti, ma perché non vieni durante le vacanze di scuola, mi aiuti un pochettino, vieni giù in officina, mi dai una mano. Bello, dai, ci andiamo. Allora andiamo io e... E tuo fratello? No, Massimo Rossi. Massimo Rossi, che è un altro grande famoso doppiatore, voce di Sean Penn, eccetera, che è un amico mio fin da bambini. E andiamo insieme lì. E mio padre ci dice: allora voi andate qui c'è stata la cosa, dovete fare per tagliare. No, allora, facile. Ho rotto 8 punte del trapano, spaccato 4 dischi della troncatrice e arrivavo alla sera che stavo male. Cioè, finivo alle 6 con le mani sporche. Sai quando si lavano col detersivo, perché sennò perché non va via col sapone. Sì, non la porti via. Andavo a casa, mi mettevo a letto e dormivo. E la mattina dopo tornavo a lavorare. Oh, mio padre mi ha detto: per due motivi non devi venire più. Primo, perché te stanchi troppo. Secondo, perché mi costi in patrimonio. Spacchi le teste punte. Non sapevo questa cosa bellissima. E poi anche, ovviamente, saluto e abbraccio forte anche gli altri componenti della famiglia, sì. Da Maurizio alla cara amica e direttrice doppiatrice Rossella, che speriamo ci stia ascoltando, che ne sai? A quest'ora dorme. Pennica pomeridiana della signora Acerbo. Oddio. Senti, ci ascoltiamo un attimo un piccolo contributo tratto da 12 anni schiavo, dove doppia il grande Brad Pitt? Se stiamo parlando di cosa è un dato di fatto e cosa non lo è, allora bisogna dire che non c'è niente di giusto né virtuoso nella loro schiavitù. Mi viene spontanea una domanda. Che diritti ha sui suoi negri, a pensarci bene? Che diritti ho? Li ho comprati. Ho pagato per averli. Ma certo, e la legge le dà diritto di possedere un negro. Ma per me è sbagliata la legge. Immagini se approvassero una legge che le togliesse la libertà e la rendesse schiavo. Immagini? Non è immaginabile questo caso. Le leggi cambiano, Epps. Le verità universali restano. È un dato di fatto. Ed è un dato di fatto che qui c'è il grande Sandro Acerbo. Grande film. Bellissimo film. Che poi è anche diretto tu, sì, no? Sì. Brad Pitt faceva un cameo. Sì, era un piccolo ruolo. Infatti, io ti avevo chiesto perché non mi dirigi che doppio io Brad Pitt, ma non me l'hai voluto. Non hanno voluto. Ma guarda che sei forte. C'è questa cosa goliardica fra me. Normalmente sapete, non parlo di me. Cerco sempre, ovviamente, di dare lo spazio giusto. Ma c'è questa gag goliardica fra me e Sandro. Certo, siccome mi è capitato una volta di doppiare Brad Pitt nell'esercito delle 12 scimmie, allora ogni tanto, ormai da 20 anni, che il mio sogno è quello di farmi dirigere da Sandra Cerbo su un film dove io doppio Brad Pitt. Allora, ma non allora, succederà mai. Lo dico ufficialmente. Okay. Spero che di continuare a doppiarlo. Assolutamente ovviamente. Sì. Lo sai che però poi... se proprio dovesse succedere, sarò contento se lo doppierai tu. Oh, questo è ufficiale perché resta negli annali della radio. Lasciate la registrazione. Io mi presento in Sefit, vado dal grande Ancidoni e dico: Ancidoni, eccolo. Allora tu hai cominciato a credere a sto punto presto come doppiatore proprio. Presto. Ma sì, perché poi non c'è nessuno in famiglia tua, a differenza di scapito di quelli che dicono la famiglia aiuta. Certo, sì, ma tu, anche tu sei un figlio d'altri. Papà mio mi poteva insegnare a mettere punte del trapano. Esatto, ma è stato meglio che non l'hai fatto, so tuo padre falliva in 2 secondi. Per cui quando hai cominciato, ecco, tu prestissimo, quanti anni avevi? Sei anni appena compiuti, perché io li ho fatti a settembre e credo che a ottobre sia andato turno. A fare il provino per la carica dei 101. Chi facevi la carica di 101? Facevo Lucky. Lucky? Eccolo là, dietro quella roccia, quel maledetto di Joe il Bieco. C'è ancora la voce di quando c'ha 6 anni, ma ve ne rendete conto? Questo signore c'ha l'età mia, anzi, sei più grande sono di più me. Grande, sono più grande, devi portare rispetto. È vero, è vero. È vero che tu c'hai veramente la voce, te non ti è cambiata tantissimo. No, vabbè, ma poi uno riesce ad usarla, questa è Voice Anatomy. Si sa certo. Che uno può parlare così o può parlare così, eccetera. Ma tu adesso hai fatto delle intenzioni da bambino reale, ed è questa è bravura. Fulmine non è morto, è solo ferito, credo. Se andate a risentirlo e la pareggiate la cosa, perché hai cominciato lì facendo, sì, sì. Cioè, anche la un po' credo. La tipo umbra. E poi non c'è niente di umbro. Perugia, ecco, tutta questa. Sì, sì. Oddio mio. E subito dopo qui è diventato poi effettivamente un lavoro a tutti, sì, gli no, effetti. No, aspetta, non subito, no, perché, non insomma, subito, perché no, mi chiamò mio padre e mia madre Giulio Panicali, che insomma è stato la storia vera del doppiaggio, con i cigoli, con Clark Gable, per Clark capirci. Gable. Chiamò mio Clark padre Gable, disse, senta, signor Acerbo, che poi mio padre non si chiamava Acerbo, no, perché noi abbiamo questa famosa storia Acerbo Ancidoni, no? Senta, signor Acerbo, suo figlio potrebbe diventare bravo, ma parla romanesco, me lo riporti quando parlerà italiano. No. Non mi ha fatto lavorare per 2 anni. Io ho lavorato nel frattempo con gli altri e mi sono... Ah, però con gli altri lavoravi, con lui? No, aveva ragione. Sì, ma certo. Io ancora parlo, cioè, sì, come te, sì. Se nella vita sì. Sei smarona. Esatto. Poi dopo quando si va lì si parla tutto bene. Infatti adesso il tecnico del suono, nell'orecchio, perché noi abbiamo un contatto diretto, mi danno i tempi, eccetera, dicevo, quando parla normale non si sente che Will Smith o Brad Pitt, certo, perché non è che stai facendo, devi fare le intenzioni che usano poi poi recita nella vita, già uno fa sto mestiere. No. Ti metti pure a recitare. Insomma niente, io lui ha detto che torni quando parlerai italiano. E per cui poi sei tornato. Non è che ho fatto scuole di dizione. No, però piano piano. Sono tornato e lui mi ha detto, adesso puoi lavorare. E ho fatto Mary Poppins. Ah, lì facevi Mary Poppins? Chi facevi? Uno dei bambini? Figli? Certo. Banks. Come si chiamava? Matthew Gabler? Aspetta, Matthew Garber nel film di Mary Poppins. Matthew Garber, sì. Sì, no, esatto. Qui ci sono gli autori, ragazzi. Noi ne sappiamo Garber. Meno di loro. Matthew Garber, come direbbe la signora Laurito. In slang. No, è vero, perché loro sanno veramente di più. E poi tutti insieme appassionatamente anche, hai fatto una parte sì, lì. Sì, però all'interno. Quelle più importanti sono state... La Carica 101. Carica 101, Mary Poppins, poi ho fatto Bambi. Per il Bambi. Quale presi un premio. Bambi diceva 3 parole nel film. Ma dai. Ma tu eri Bambi? Io doppiavo proprio Bambi. Ma è vero che Bambi non parla no, mai? Non dice mai. Venni premiato da Pippo Baudo al Teatro Adriano come voce di Bambi. Non so perché. Perché Bambi è ancora famoso. Ancora me lo sentire. Chiedo. E come dice, bravo per aver doppiato Charlie Chaplin. Sì. E dice, ma veramente vabbè. È muto. Vabbè. Ma comunque. Okay. No, Bambi diceva mamma, piangeva. Sì, 4 cose. Piangeva nel bosco. A posto andavo bene. Credo che sia una delle scene. Sì, ma andavo bene per quello. No. No, ma quella era terribile. Io credo che quel film, rivedendolo, vorrei fare delle cose in questa trasmissione dove far risentire i film che hanno scioccato sì. I bambini all'epoca. Perché se voi vedete i primi 5 minuti di Bambi, è straziante. Terribile. C'è lui che corre con la mamma vicino alla foresta, a un certo punto colpi di cacciatore e lui che continua mamma mamma e poi mamma non rispondere più mamma mia davvero guarda e poi da lì non ha mai smesso praticamente no. Però tu potevi essere, dovevi essere un avvocato o sbaglio? Sarei. Tu nel sei nel senso che io sono laureato in giurisprudenza. Ah, per cui hai portato avanti per cui ho comunque fatto la carriera papà e mamma. E anche un po' me stesso, dai. Beh, diciamo sì, la verità. E però poi avrei dovuto fare la specializzazione, l'esame di Stato. Facevo 4 turni al giorno, figurati. Sì, normalmente se ne fanno 3 per tutti i profani di questo mestiere. I turni sono 9, mezzogiorno, l'una e mezza. Ma io essendo anziano sono anche del periodo in cui si faceva 9, 12 e 30, 14 e 30, 18, 21 e 30. No, non me lo ricordo. E volendo 21 e 30, 24. Io mi ricordo ancora delle volte che finivo di lavorare alle 24 mezzanotte. A Cinecittà. Tornavi e a tornavo casa. A casa e era già ora di tornare. È lì al che hai cominciato a perdere tua moglie, lì, la famiglia. È stato. No, non ero ancora sposato. Madonna, no, questo proprio non lo so, nonostante sono 35 sì. anni che giri in quei luoghi. Tu considera che io quest'anno sono 54 anni che doppio, che doppio. Che doppio. Quindi figurati. Rimpiangi la decisione? Credo di no, la risposta posso darla anch'io, di aver cambiato questo sliding doors. Se tu tornassi indietro faresti esattamente la stessa cosa oppure continueresti questa carriera forense? No, quello penso di no. No. Però ti ha aiutato, ti ha dato cultura. Grandi soddisfazioni da questo lavoro. Poi lo dico sempre, io faccio un lavoro dove tutti i giorni non mi annoio e per me è fondamentale, essendo un inquieto, un irrequieto. Quindi una mattina incontro un grande attore, vedo Pino Insegno. È quello che ti cambia la giornata. È lì che vorresti tornare a fare l'avvocato, ma stai ancora qui. Allora signori, Voice Anatomy, ci sentiamo tra pochissimo con il nostro amico Sandro Acerba, tra poco. Sono il tenente Aldo Rain e sto mettendo insieme una squadra speciale e mi servono i miei 8 soldati. 8 soldati americani e ebrei. Avrete sentito tutti di una imminente operazione militare. Beh, noi partiremo un po' prima. Ci lanceremo in Francia, in abiti civili. E una volta che saremo in territorio nemico, come guerriglieri in agguato alla macchia, faremo una cosa e una sola: uccidere i nazisti. Ora non so voi, ma io, sicuro come l'inferno, non sono sceso dalle Smoky Mountains, non ho attraversato 5.000 miglia d'acqua, non ho combattuto per mezza Sicilia per buttarmi da un aeroplano del cazzo e dare ai nazisti lezioni di umanità. I nazisti non hanno umanità. Sono i soldati di un pazzo che odia gli ebrei e pratica l'omicidio di massa e devono essere eliminati. Ecco perché ogni figlio di puttana che indossi un uniforme nazista dovrà morire. Voice Anatomy. E noi riapriamo Voice Anatomy sempre con la voce ufficiale di Radio 24, che è l'amico Christian Janzan. Voice Anatomy. Esatto, che voi l'avete sentito già ospite della nostra trasmissione, ma voi dovete vederlo quando opera di fronte a un microfono, che cosa non riesce a fare. È un coreografo, non è un doppiatore da quel punto di vista. Ci siamo salutati nel blocco precedente con l'interpretazione di Brad Pitt da parte dell'amico Sandro Acerba di Bastardi senza gloria, ma andiamo anche a un altro grande corpo con una bellissima voce di Sandro, che è Will Smith in Bad Boys o Men in Black. Che facciamo? Bad Boys, mi dice Valerio. Vai! Negro, chi c'è alla porta? È Reggie! Che cazzo è Reggie? È venuto a portare fuori Megan. Che vuoi, negro? Portare fuori vostra sua figlia. Come ti chiami? Reggie. Ho capito, non sono sordo, ti chiami Reggie, vuoi portare fuori Megan? Sì, sì. Quanti anni hai? 15. Merda, negro, io dico 30. Lui è Mike. Sai fare a botte? Sì. Sai fare a botte? Non sai fare a botte, guardati. Mike, no, voglio sapere se questo negro... Qualcuno vuole portare fuori mia nipote, voglio sapere se il negro sa fare a botte. Qualcuno potrebbe darle fastidio, se lui non sa difenderla, lei non può uscirci, no? Lui è il padrino di Megan, va bene? È stato dentro fino a ieri. Perché ora ti metti a spiattellare i fatti miei? Perché spiattellare... Ah, sarà uscito di galera e non ci voglio tornare! Non ci voglio tornare! Che ti prende, ragazzi? Ti sei messo paura, non hai mai visto una schiaccianegra? Mike, smettila di puntargli l'arma. Negro, non mancarmi di rispetto davanti alla gente, capito? Va bene, metti via la pistola. Negro, certo che sei proprio uno spilungone del cazzo, sembri un po' Ludacris. Fire up! No. Muoviti, negro, te ne devi andare. No. Se ti becco a cazzo e c'era ti costringo a emigrare. Se ti becco... Mike! Eccoci. Beh, non è facile, capito? Un anello del genere. Carino. Non è facile per niente. Ecco, che poi dico... questo Bad Boys 2 sì. Viene dopo... Men in Black. Dopo il primo Men in Black. Anche quello. Allora devi sapere che prima di Men in Black io non avevo mai doppiato Will Smith. Ah, è cominciato con Men in Black facendo i provini di Men in Black. Certo. E infatti Bad Boys 1 lo doppiava Will Smith il nostro caro amico Simone Mori. Ah, Simone, che ancora me lo rinfaccia. E come io ti rinfaccio Brad Pitt. Sei arrivato, me l'hai fregato e non me l'hai più dato. Allora, quando adesso tanto inviteremo anche Simone, verrà anche il suo momento e ascolteremo anche l'altra campana. Ma vi ricordo che Sandro Acerba è anche un avvocato per cui potrebbe prendere seri provvedimenti. No. Parlavamo prima durante la pubblicità che mi è venuto in mente che il papà di Sandro, essendo stato un fabbro, lui adesso per Nemesi è il direttore di doppiaggio dei Games of Thrones, del trono di spade, dove la spada, dove certo. Chi fa veramente qualcosa di questo tipo. Pensa, mio padre è stato uno degli ultimi artigiani del ferro che continuava a lavorare con la forgia. Ma veramente da film. E noi gli dicevamo: papà, Guarda che i tempi sono cambiati, primo. Secondo, se lavori con la forgia, mettiti almeno una mascherina. E lui invece... Lui ha avuto per 30 anni l'asma. Non e continuava a dire, oh, ma che me ne frega, no, ma io so lavorare solo così. E tu gli dicevi che la forgia sia con te. La forgia, che la forgia sia con te. Qui arrivano parecchi, ovviamente, messaggi di congratulazioni, di complimenti per la trasmissione. Sapete che amo leggere soprattutto quelli che sono un po' più negativi nei miei confronti. E lo dico ogni settimana, perché ce n'è stato uno che io ripeto ogni settimana, che mi ha fatto veramente ridere. Dice, finalmente Pino Insegno che conduce un programma radiofonico la domenica, così io posso accendere l'aspirapolvere, avete la stessa voce. Io lo dico ogni domenica perché è giusto ricordarle. Acerbo e Insegno Insieme, due voci di riferimento per me, per impostarmi nel mio piccolo programma radio. Grazie ragazzi, magari poter intervenire in studio lì con voi. Mi inviti Pino, un abbraccio a tutti. Il Nuti o Nooti, eccetera. Noi abbiamo una segreteria telefonica, il nostro voice box, e sapete che potete lasciare i vostri messaggi, laici o profani che siano, noi li ascoltiamo, perché tre di voi saranno scelti per adesso in questa prima tranche per partecipare come ospiti al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, ma che ne parleremo fra poco, per cui già i primi tre sono stati scelti per stare insieme a noi giovedì prossimo, dove poi Sandra Cerva ha una bellissima candidatura per Boyhood. Di Boyhood, un e film, anche Il Trono di Spade. E anche Il Trono di Spade, due candidature, uno per la fiction o miniserie eccetera, e l'altro per un film bellissimo. Un'idea geniale il fatto di seguire quest'attore per 18 anni, 15 sì, anni, sì, quanto sì, è stato? 12 insomma, anni, 12 anni ha seguito questo. Da 6 anni fino ai 18. Ed è sempre lo stesso sempre attore, lui, pazzesco. Lui. No, un film che poi è stato candidato. Potevo farlo io, così facevo 6 no, anni. E poi a 18 diventava. Lo vedete com'è egocentrico, no, dovete averlo come direttore per capirlo. E per cui potete lasciare questi messaggio ovviamente l'828-1212, ovviamente 824-00-24-800-24-00-24 per telefonate in diretta. Il numero degli sms che state utilizzando è il 349-238-6666, anche WhatsApp che non sto leggendo, colpa mia, va bene, purtroppo ce ne sono molti e io li ho saltati e mi dispiace. Allora parliamo ancora con Sandro Acerbo della sua bellissima carriera. Abbiamo detto questo passaggio da avvocato, da giovane doppiatore ormai a direttore confermato, dialoghista, che è un altro dei ruoli fondamentali del nostro lavoro, che fanno sembrare più bello quello che si ascolta, nel senso che sono state parecchie diatribe, il doppiaggio leva la possibilità di imparare le lingue, ormai si è capito che non è così, il doppiaggio è una traduzione che può essere fatta bene sì, o fatta male, ma è una traduzione che può veicolare ovviamente un film e renderlo ovviamente accessibile a tutti quanti. Quali sono stati i personaggi, lo sliding doors della tua vita, dove è cambiato il doppiaggio, dove sia stato il salto? Ma sono stati, ovviamente con una carriera così lunga, sono stati vari. Sì, all'ultimo si accavallano uno sull'altro. Beh, sì. Diciamo che all'inizio una delle sliding door è stata sicuramente quella di diventare un po' in quell'epoca la voce di tutti i pischelletti dei film italiani dell'epoca, perché all'epoca si doppiavano. Ah, ecco, questa è un'altra cosa. Prendevano un semi-attore di faccia e poi tanto sapevano che si poteva doppiare. E io molto spesso ho fatto film con Carmen Villani, con proprio film questi. Perché all'epoca erano molto molto molto di moda. Poi certo, ho fatto ovviamente quelli con Alvaro Vitali, insomma, come voce, sempre come voce. E io doppiavo sempre il giovane, ragazzo, l'arrapato. Sì, l'arrapato, l'arrapato della situazione. E quindi quello è stato uno dei passi. Poi da lì c'è stato il passo successivo. Sono stati i protagonisti. Sono i vari protagonisti giovani delle sì, che poi film. Si doppiava tutto, anche i film neorealisti, cosiddetti, i film storici, insomma, beh, erano tutti doppiati. Io dico sempre, non è io che... ho avuto rispetto a voi che siete comunque già molto anziani del mestiere, fra virgolette, sì, io ho avuto degli incontri e ho lavorato fianco a fianco con tutti i mostri del cinema italiano. Io ho lavorato insieme a Gassman, ad Alberto Sordi, a Nino Manfredi, a Monica Vitti, a Sofia Loren, perché loro interpretavano le loro parti certo. Io doppiavo i ragazzini, io per esempio Profumo di donna, io Momo. Doppiavo Alessandro Momo e ho lavorato insieme a Gassman. Bella questa cosa. Il quale venne un giorno, io, una soggezione terribile, perché poi già metteva soggezione. Ah, è gigantesco, gigantesco lui. Lui arrivò, chiedo, no, ah, ciao, ok, va bene, incidiamo. Pronto. E andava. Incideva senza nemmeno guardare. Buona. Non è facile doppiare se stessi. È già per più la gente è più difficile perché non rientrano le stesse. Tu dici buongiorno con una come velocità. Come se nulla fosse. Va bene? Via. Arrivederci. Grazie. Grazie, ciao. Acerbo. Arrivederci, Acerbo. Ciao. Ci vediamo presto. Tu è vero doppiavi Alessandro Momo? Sì. Ho doppiato negli unici nei due film. Tre film. Che era Malizia. Malizia, Profumo di donna e Peccato veniale. La prima fu Malizia, poi Peccato veniale e poi Profumo di donna. Grandissimo film. E poi purtroppo quell'incidente in moto proprio sul lungo Tevere, si è dimenticato anche quello purtroppo. E beh, in effetti anche questo c'è il passaggio che la gente magari non lo sa esattamente, anche quei film, se pensate al Vangelo secondo Matteo, il protagonista del film di Pasolini era Enrico Maria Salerno, la voce, come Enrico Maria Salerno poi ha doppiato meravigliosamente bene per un pugno tutta la trilogia del dollaro. Clint Eastwood era Enrico Maria Salerno, cioè, come Gino Cervi a Mleto. Quando un uomo con la pistola, quando un uomo col fucile incontra un uomo con la pistola, l'uomo col fucile è un uomo morto, l'hai detto tu Ramon, ma con una voce che non era stentorea come i Cigoli, un uomo col fucile incontra, era veramente moderno. No, Cigoli da questo punto di vista è stato un maestro assoluto. Mi ricordo ancora, io avevo 8 anni e per la prima volta doppiavo un bambino protagonista insieme a lui su un film di cowboys e lui doppiava John Wayne. Ovviamente arrivo nella sala R della Fonoroma, sala grandissima, e sento questa voce, roboante, voce di Dio. Sì. Venga pure, Acerbo. Già quello. Io piccolo, altro che arrivo Gazzman. Lì, c'era già la sedia pronta perché non mi bastava il panchetto, quindi con la sedia per arrivare al leggio. Che poi tuttora utilizzi sedia e panchetto, anche, dobbiamo anche dirlo. Anche adesso perché arrivo lo stesso. Devo prendermi qualche rivincita con te io. arrivo lì e dice va bene, allora facciamo uno. E io con la mia voce da bambino, ehi papà, ho portato l'acqua. Lui fa, no Acerbo, non dica così, dica come me. Ehi papà, ho portato l'acqua. E io per rifarlo facevo, ehi papà, ho portato l'acqua. No. Cioè, capito? Questo chiedeva io la voce. Ho vissuto questo. Da testosterone a 10 anni. Comunque per essere veloci, la grande svolta è stata, per me professionalmente, è stata doppiare Michael J. Fox. Sì, lui da lì, è piaciuto. Da lì, no, ma devo dire che la mia carriera da attore ha avuto un'accelerazione. Hanno capito? Di accelerazione. L'hai detto bene? No, una volta no. No, però adesso accelerazione. È venuto bene. È come l'altro giorno che doppiando lì da voi, da noi, alla Sefit, io ho detto la parola, il tecnico del suono, Galluzzo, ha detto, Pino, aspetta, controlliamo come si dice, se scoperta o scroperta. Aspetta un attimo che controllo, cioè, perché uno si impiccia naturalmente. Quale passione ha l'amico Sandro Acerbo, a parte il doppiaggio, a parte l'avvocato di sguincio, come si dice a Roma. L'amico Sandro Acerbo, ma di passioni ne ha tante, ne avrebbe tante. Sì, ma non c'è il tempo di riportarle. Ma non ha molto, ma non ha mai collezionista avuto di farfalle, non lo so, qualcosa di no, sedentario. Collezioni non ne nessuna. Faccio. Però vabbè, per un lungo periodo ho giocato a tennis. Sì, nell'ora di pausa, perché quando? Sì. La domenica, ecco. No, mi ricordo che un certo periodo eravamo tutti segnati ad un circolo, un famoso circolo romano, con Ferruccio Amendola, Mario Mastria, erano tutti giocatori di tennis. Sì. E io ci andavo solo, andavo lì da loro, ma loro non mi facevano mai giocare perché erano già fra di loro. E io andavo lì e vedevo, guardavo, basta. Poi loro per una serie di motivi, uno purtroppo se n'è andato, l'altro diciamo quasi, e insomma mi sono trovato sempre in questo circolo dove non conoscevo più nessuno, però dico vabbè, ma vado all'ora di pranzo, magari trovo. Invece no, arrivavo lì, trovavo gente che si conosceva perché erano tutti colleghi di lavoro, avvocati, ingegneri, cioè, già appuntamentati. E io arrivavo lì, mettevo lì, mangiavo la cotoletta milanese e ritornavo al turno. Da questo abbiamo capito perché assoluta. L'amico Acerbo preferisce stare seduto facendo venire le piaghe da decubito durante la direzione. Signori, ancora tra un po' insieme a voi sonati, tra pochissimo dopo il traffico e ancora con Sandro Acerbo. A tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Voice Boys Anatomy. Come promesso, subito di ritorno e sempre qui con Sandra Cerbo. Ascoltiamoci un momento un altro film cult, occult cult è meglio, che è Fight Club, dove sempre Sandro doppia il bravissimo Brad Pitt. Prego. Vedo nel Fight Club gli uomini più forti e intelligenti mai esistiti. Vedo tutto questo potenziale e lo vedo sprecato. Porca puttana, un'intera generazione che pompa benzina. Serve ai tali, o schiavi coi colletti bianchi. La pubblicità ci fa inseguire le macchine e i vestiti. Fare lavori che odiamo per comprare cazzate che non ci servono. Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande guerra è quella spirituale. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene. Bene. Le palle piene, eh? Eh sì, ma sto vocione. Bello, bello, bellissimo. Sto vocione. Sentite che roba. Ne abbiamo veramente ma le palle. Ma questo hai voluto dimostrarmi. Se tu pensi che questo film, per dirti come le voci... Questo film credo che abbia oramai quasi 15 anni. Ce n'ha. Allora, mi ricordo ancora che già doppiavo regolarmente Brad Pitt. Arriva questo film... E mi chiama un nostro, posso dirlo, Alberto Mochi, un nostro, come dire, fra virgolette, cliente, un amico. Sì, insomma. Era di Medusa. Medusa. E mi dice, Sandro, senti, qui è arrivato un film di Brad Pitt, mi sa che non lo puoi fare. Dico, perché? Perché sono impegnato. No, ma quello lo devi vedere, una montagna, è pieno di muscoli, poi parla tutto proprio pesante, la voce va... E ho detto, e che devo fare? Proviamoci. Dice, senti, facciamo una cosa. Tanto c'è il trailer, che ovviamente si fanno 60 mesi prima della uscita. Sì, perché non sa neanche di che parla il film. E poi dice, proviamo, facciamo col trailer e vediamo se ci riesci. Io, sta cosa non mi piaceva. Dico, ma no. Perché proprio questo film che bello. È un film cult? No, non posso. Non lo so, è uscita sta voce. Che non è mai voluto dimostrare con questa cosa, dicevo che puoi reggerlo tu, anche se lui dovesse fare un giorno il vocione, per cui Pino sei fuori. No. Che te lo becca a Mar de Gaulle. Una cosa in quel periodo uno consegna, c'è niente da fare. Succederà. Allora, tanti altri complimenti. Qualcuno ci dice, parlate ancora di doppiaggio, eccetera, ma devi sapere, amico mio, che le puntate sono di variegate. Si va da Marisa Laurita al doppiaggio, dopo abbiamo un voice coach, parliamo sempre con, abbiamo parlato con degli ipnotisti, con degli etnomusicologi, per cui la puntata, durando poi 3 ore, è veramente sfaccettata, come diciamo sempre, è molto interessante perché si occupa di voce in tutte le sue declinazioni. Complimenti ad Acerbo, il suo cognome non è così, non è vero, lui non è Acerbo, vabbè, questa è anche cosa divertente. grazie, va bene. Battuta che sento dal 1960. Ma sei sui cognomi nostri, io penso coinsegno che ci avrai da insegnare. Acerbo, lei ancora non è maturo. Ne so, capirai, a scuola poi immagino che t'abbiano massacrato. No, a scuola Ancidoni. Però t'avranno interrogato spesso, sempre però, Ancidoni, allora, Acerbo. Adesso, venendo qui sotto c'era il portiere che gentilmente mi ha fatto entrare e gli ho detto, dico, devo andare da Pino Insegno, sono Sandro Acerbo. Ah sì, mi potrebbe lasciare un documento, di che calla. Gli dai il documento, Ancidoni. E regolarmente in Rai succede questo, ma lei non è veramente. Adesso le spiego e comincia tutta la storia della mia vita. Tardi. Guarda, il treno è partito, l'aereo è andato. Vabbè. Allora, vi ricordo, prima di una bella lettura di Sandra Cerbo, come sapete tutti i nostri amici doppiatori, attori, poi leggono qualcosa, qualcuno ha letto come si monta una lavatrice, qualcuno il Tampax, qualcuno delle medicine, lui leggerà una cosa a cui è molto affezionato e l'ascoltiamo molto volentieri. Vi do i nomi dei 3 doppiatori, o comunque 3 nostri amici profani del doppiaggio, qualcuno che vuole tentare di fare questa arte in qualche modo, di fare l'attore, hanno vinto la possibilità di stare con noi al Gran Premio Internazionale di Doppiaggio di giovedì 17 a Roma, all'Auditorium del Massimo all'Eur. Il Marco Lattanzio, Emiliano Valdemarca e Sara Pendin. Ecco, lo sapete voi anche per radio, perché non gliel'abbiamo ancora detto, vero Damiano? Non gliel'abbiamo ancora detto, per cui siamo i primi. E adesso chiedo a Sandro di leggermi prima avevo detto di no, poi, esatto, poi mi è venuto in mente, mentre ero a casa, di il mio carissimo amico che si chiama Domenico, che fa tutt'altro, perché lui è medico. È bella questa cosa, che aveva un padre di umili origini come il mio. Mio padre faceva l'artigiano e il suo papà faceva il portiere. Portiere che però si dilettava a leggere di tutto e a scrivere di tutto, e soprattutto era diventato uno specialista in poesie. Solo che scriveva poesie romanesche. E va bene, questa è la tua, il contrappunto, cioè la nemesi. Per cui mi fa piacere leggere questa cosa e la dedico a tutti i papà come il mio. Assolutamente. E io mi unisco, e tutta Radio 24 si unisce. Questo è un bellissimo pensiero. E allora vai, Sandro! Il titolo è Er testamento de Toto. Quando che moro io non voglio pianti, non voglio ghirigori sulla cassa, non voglio canti, ma una messa bassa, una cannela e dei fiori manco tanti. Perché per chi ha vissuto onestamente non servono alla sarma tanti canti, sprechi di sordi e poi non serve a niente. E i parenti, nella circostanza, invece di pensare per la ghirlanda, pensino invece a riempì la panza. E non ve fate vedere piagne davanti alla sarma, perché se no me arzo e ve pio a carci in culo a tutti quanti. Che bella, grande ironia, la romanità come la napoletanità da questo punto di vista, ma sono le sintesi bellissime. Vabbè, ma questo è un messaggio affettuoso, sta quasi finendo il tempo di stare insieme. Non potevo dire, ho portato un pezzo mio, esatto, non lo dico. No, esatto, non ce n'ho. Non è nel mio costume. Te sei portato tu. Io parlo romanesco nella vita e poi dopo improvvisamente. E poi i doppiatori poi non sono tutti romani, no, la scuola è romana perché nasce a Roma. Posso dire un ultimo aneddoto? Quello divertente. Che vuoi, allora, abbiamo ancora tre minuti insieme. Un altro mio carissimo amico, col quale sono cresciuto insieme dall'età delle medie, quindi oramai anche lui ha la mia stessa età, quindi sono 50 anni. 15 anni. E, studiavamo insieme e io spesso e volentieri, lui mi diceva, allora vieni oggi pomeriggio a studiare, e non ci andavo, scusa Alfredo, non posso venire perché... mi sento poco bene. Un'altra volta, perché all'epoca non si poteva dire che uno lavorava, che faceva il doppiaggio, i professori se no si dicevano, ah, questo lavora, quindi invece io ho sempre lavorato e ho fatto il mio dovere a scuola, anche vero, laureato, diciamolo. Però non si diceva. Allora io pure col mio amico zitto. Poi un giorno, dopo tante volte, ciao, questo mi faceva, ah, sai, che palle, non vieni mai. Allora un giorno dico, senti, ti devo parlare. E dice, ah sì, dimmi. No, ti volevo spiegare, dico, non è che io non venga perché sto male, ma io non vengo perché già lavoro. Ah, lavori? Che lavoro fai? All'epoca nessuno conosceva bene il doppiaggio. No, come non adesso. Era un mondo conosciuto. Allora dico, beh, faccio il doppiatore. E dice, che? E dice, beh, io con la voce mia la do agli attori. Silenzio, pausa, proprio artistica. E poi mi fa, te. Se posso dire parolacce? Sì. Te, con sta voce a cazzo. Avrebbe massacrato chiunque. Io ho detto, no, forse non. No, cos'è che... Ma no, sai, gli amici ti legano a tutto qua, a una storia che non conoscono e non sanno che poi davanti a un leggio su un palcoscenico uno questa, con sta voce a... Ho portato un mio pezzo. Esatto, questo non si può dire. Bene, signori, allora Voice Anatomy ovviamente continua con degli ospiti straordinari come tutte le domeniche. Fra un po' parleremo ancora del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, perché siamo alle porte ed è giusto dargli un po' più di spazio. Abbiamo dato uno spazio importante soprattutto anche ai film d'autore quest'anno, perché è giusto bello, sottolineare, ottimo, bella iniziativa, bravi. Che è voluta fortemente poi da Filippo Cellini, che è il mio amico e socio in questa bella avventura. E io non vedo l'ora di stare su quel palcoscenico a gestire questi premi, che poi i premi sono tutti bravi. Cioè, sì, la cosa bella bene, che è una soltanto la scusa per essere una grande festa di questa grande professione, che racchiude anche gli adattatori, i dialoghisti, i tecnici del suono, di mix, gli assistenti e quant'altro. No, ma ben vengano, perché per anni siamo stati nella terra di nessuno. Finalmente, esatto, qualcuno che parla di noi, ma mica per altro, non è per mania di protagonismo, no, ma perché facciamo un lavoro bello, interessante, super professionale, valorizziamolo. È affascinante. Anche perché poi andiamo al cinema. Ste vociacce. Esatto, con sta voce che ti ritrovi. Sandra Cervo, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Deborah, ti piacciono ancora le favole? Mi piacciono sì, soprattutto adesso che è quasi Natale, ne stiamo scrivendo una insieme. Io, te, i nostri ascoltatori e Andrea Vitali. Eh sì, sino alla vigilia di Natale daremo vita a una grande favola collettiva. Ogni giorno, all'interno di Cuore e Denari, io darò un incipit nuovo e i nostri ascoltatori potranno completarlo scrivendo un pezzo di favola sul sito di Radio 24. Il migliore verrà poi letto in trasmissione e riceverà il nostro libro Secondo Canto di Natale. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digitale sul... Sanatomi. Bentornati signori, dopo questa pausa un po' più lunga, sono le 16.05 e 39 secondi, ancora una volta Voice Anatomy. Oggi si sono alternati qui davanti ai nostri microfoni Marisa Laurito e Sandro Acerbo. Ovviamente dopo ci sarà una bravissima Loretta Martinez, è una dei più importanti vocal coach in Italia, parliamo come sempre di voce, con un ospite anche telefonico che è Matteo Becucci, già protagonista di Tale Quale Show, ma è un grande cantante, grande voce, anche lui studieremo tutti i percorsi della voce. Ma adesso è il momento, ovviamente questa è la settimana del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio e per cui parleremo ovviamente di doppiaggio, ma parliamo ovviamente sempre di voce, anche sensibilizzando su alcuni film molto importanti. Infatti quest'anno si è deciso di aprire le candidature anche ai film d'autore, i cosiddetti film magari di nicchia, meno visti ma importantissimi sia come recitazione che come intensità di film, e noi li metteremo sotto la lente di ingrandimento proprio per magari dargli anche una seconda vita. Da questo punto di vista non dobbiamo ovviamente prendere il posto di La Rosa Purpurea del Cairo, altra bellissima trasmissione di Radio 24, ma in questo caso noi ci fermeremo un po' di più su questi film. E come l'altra volta abbiamo parlato di uno dei cinque film candidati, che era The Fighter, oggi parleremo degli altri quattro film candidati in questa categoria, parlando direttamente anche con le persone che hanno acquisito i diritti di questi film, ha avuto il coraggio di portare in Italia dei film più difficili. Vicino a me mi ha raggiunto Filippo Cellini, uno degli ideatori del questo Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, a capo anche di questa società di comunicazione che è la Ince Comunica, e tutto il suo staff, perché è un lavoro veramente lungo e veramente difficile perché sono tante le situazioni. Ma abbiamo già al telefono il primo ospite che ci racconterà dell'importanza di questo film. Noi abbiamo Francesco Melzi Derril con un R soltanto, della Good Film, e il film in questione è Mammi. E allora Francesco, benvenuto a Radio 24, a Voice Anatomy. Buongiorno a tutti. Tutto questo entusiasmo, Francesco, a cosa lo dobbiamo? Francesco, sono in treno che sto tornando a Roma, quindi spero non ci siano problemi di connessione. Non sapremo, so per certo che succederà fra una galleria all'altra. Ma prima che cadi, parliamo di un grandissimo film, è vero Filippo? Sì, esattamente. Innanzitutto grazie Francesco di essere qui con noi, e grazie soprattutto per il coraggio che avete avuto lì alla Good Film di prendere questo film e di portarlo, perché il film è veramente un film eccezionale. Stiamo parlando di Mammi. È un film che parla di un rapporto meraviglioso tra una madre molto particolare ed un figlio molto particolare, ma il tema di questa categoria edizioni d'autore è quello appunto di evidenziare la scelta. Perché questa scelta? Come è nata questa scelta, Francesco? Come è balzato? Noi cerchiamo sempre di prendere, di scovare, di scoprire nuovi autori, nuovi film. E a Cannes ormai 2 anni fa conoscevamo già il lavoro di Xavier Dolan, i suoi film erano già stati a Cavenetta, un talento fenomenale, giovanissimo di 25 anni. Mammi era in concorso Festival di Cannes, lo abbiamo visto e siamo rimasti tutti sconvolti dalla foto del film, e lo abbiamo acquisito là al festival e poi il film ha preso il premio della giuria quell'anno al Festival di Cannes. E devo dire che il risultato sembra un film girato in italiano, per quanto è venuto bene questo doppiaggio, questa traduzione, questo adattamento. Sì, innanzitutto Rodolfo citiamo Bianchi, Rodolfo Bianchi, il direttore, e anche Alessandro Benato, che è l'edizione appunto di Good Film. Ma c'è una particolarità del film che volevo chiedere a Francesco. Il film è girato in 16 noni rovesciata, che è una tecnica abbastanza particolare. È caduta la linea, ma è normale che succeda in treno. Però possiamo dirlo noi, nel senso che il regista Dolan ha utilizzato questa tecnica particolarissima. Ossia, il film si vede stretto e lungo. Sembra da un telefonino come idea, un po' più largo. Girato in una maniera meravigliosa, una fotografia fantastica, interpretazione meravigliosa. Ma questa caratteristica dà una specie di profondità al film che, unita ai contenuti che sono assolutamente meravigliosi, dà uno spessore al film unica, se vogliamo. Sì, non dà per niente. E poi dà quell'idea di oppressione che serve al film, dove ci sono poi delle aperture bellissime. Noi ve lo consigliamo assolutamente di vederlo. Mammi è un film straordinario della Good Film. Francesco, sei tornato in linea. Sono con voi di nuovo. Va bene, senti, ti salutiamo e continuiamo a parlare anche degli altri film, continuiamo noi, così ti evitiamo anche lo stress fra una galleria e l'altra. Noi ovviamente, Francesco, ci vediamo giovedì per questa categoria, ma anche per altre, perché voi partecipate come Good Film anche ad altre categorie del Gran Premio. Quindi grazie infinite. Grazie a voi, del vostro, continueremo così comunque. Ce l'auguriamo tutti, auguro, per il coraggio e per la voglia di portare film nuovi qui in Italia e di doppiarli, ovviamente. Grazie Francesco. E allora andiamo di corsa da Gianluca Buttari, invece, della Teodora Film. È un altro film molto particolare, che è Forza Maggiore, che non è ovviamente un'incitazione calcistica. Ma non è. Allora, Gianluca è responsabile delle edizioni della Teodora Film, ha avuto il piacere di conoscere e di condividere anche un momento del nostro lavoro insieme con un film che poi sta uscendo adesso con Benicio del Toro, che è Perfect Day. Ma questa è un'altra storia. Gianluca, ci sei? Buonasera Pino, buonasera a tutti. Buonasera Gianluca. E allora, questo Forza Maggiore, anche a voi che siete molto coraggiosi nella scelta dei vostri film, film importanti, di nicchia, che noi cerchiamo di ovviamente tridimensionalizzare in qualche modo da questi microfoni di Radio 24. Come è nata la scelta su Forza Maggiore, che è un film del Nord Europa, se non sbaglio? Sì, diciamo che ci caratterizziamo molto come Teodora Film per la distribuzione di film scandinavi. Il film è stato visto a Cannes, dove appunto ha vinto il premio della giuria nella sezione del Certain Regard. È stato appunto un film che ci ha stupito subito, diciamo, alla prima visione, e diciamo anche la vincita del premio ci ha stimolato comunque all'acquisto del film, a portarlo in Italia. Sì, questo. Oh, una domanda, una volta che scelto il film, come avviene poi la scelta del doppiaggio? A parte i dialoghi, l'adattamento? Qui ovviamente la direzione del doppiaggio e i dialoghi sono di Fabrizia Castagnoli, un'altra grandissima direttrice, bravissima adattatrice. Come avviene? Diciamo che io lavoro, come tutt'ora lavoriamo spesso con Fabrizia Castagnoli o comunque con la Fono Roma, c'è adesso un rapporto che si è consolidato nel tempo, tendo a lavorare spesso con lei ed insieme scegliamo appunto le voci e gli attori, cercando appunto di rimanere più fedeli possibile a quello che è l'originale. Così, semplicemente così. E qui avete scelto Riccardo Rossi, che insomma non ha bisogno di presentazione. È stato fantastico. Sì. Chiara Golizzi, Arianna Vignoli, Francesco Prando, Francesca Marigone, Laura Romano, Marco Vivi, Antonio Palumbo, Mario Magliozzi, Gabriele Meoni. Sì, insomma, Meoni. Hanno fatto un lavoro eccelso, nel senso che poi anche questi film sono molto complicati, nel senso che comunque, come sappiamo, gli scandinavi tendono appunto a dire poco. Nel senso, il loro modo appunto di recitare è tante volte anche molto più piatto rispetto al nostro, sono molto meno eccentrici. Sì, questo è uno degli aspetti, scusami se ti interrompo, questo è uno degli aspetti più interessanti. Cioè, noi spesso e volentieri parliamo di doppiaggio e pensiamo che arrivino solamente film in lingua inglese e che quindi ci si possa adattare a quel tipo di linguaggio, mentre invece qui arriva dal Nord Europa ed è una lingua completamente diversa, un'intenzione. Sì, quando arrivano dal Giappone o dalla Cina, invece dalla Turchia, esatto, no, invece. Appunto, dico. Totalmente. Esatto, quindi quindi tanto di cappello a voi per questa scelta e soprattutto per questo, appunto, coraggio. A parte l'ultima scelta della Teodora di cadere su di me, su Benicio del Toro per Perfect Day, devo dire che la Teodora ha inanilato una serie di successi. Vabbè, ogni tanto si sbaglia. Sì, ma ogni tanto danno anche la possibilità a qualcuno. È stata una scelta fantastica. A qualche outsider, esatto. Lo so, speriamo bene. Il film merita, perché veramente ne parlano tutti molto bene. È un altro film dotato di grande ironia, nonostante ci abbia uno sfondo su una guerra importante, quella in Serbia. Ma il film è veramente interessante. Ma noi intanto, amico mio, ci vediamo e ci sentiamo giovedì 17 al Gran Premio Internazionale Doppiaggio, dove scorreremo, io non lo saprò fino all'ultimo, perché facciamo come gli Oscar, arriveranno con tanto di ceralacca le buste, ed è giusto così, ma è una festa, hanno vinto veramente tutti, e poi ovviamente ci deve essere un vincitore. Hanno vinto i migliori. I migliori hanno vinto sicuramente, ma gli altri sono tanto quanto da questo punto di vista. Gianluca, in bocca al lupo a te, alla Teodora Film e a tutto il resto. Un abbraccio forte, grazie Gianluca. Bene, e allora dopo Francesco Melzi del Ril, della Good Film per Mami, e Gianluca Buttari della Teodora per Forza Maggiore, noi ci salutiamo un attimo e torniamo con le ultime due candidature per poi passare agli altri ospiti di Voice Anatomy. A tra poco. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Anatomy. Eccoci di ritorno in studio con Filippo Cellini per passare in rassegna gli altri quattro film candidati al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio. Abbiamo salutato Francesco Melzi del Ril, ripeto, per Mammi, film che io vi consiglio, come quello della Teodora Film per Forza Maggiore con Gianluca Buttari. Abbiamo al telefono Stefano Massensi della Lucky Red per Ritorno alla Havana. Caro Stefano, pronto? Ci buonasera. Sei? Buonasera, tu sei responsabile delle acquisition, tu sei quello che acquista, per dirlo in italiano, ma acquisition già è un giorno italiano. Ti è venuto bene acquisition. Acquisition mi riesce benissimo, benissimo. Come interpretation, tutto question mi viene benissimo. Insegnation. Esatto. Allora Stefano, questo Ritorno alla Havana, che è una sorta di grande freddo del Sud America, quanto esatto. È bello, com'è nata? Anche da parte tua facciamo la stessa domanda, la scelta anche voi, scelte particolari che vanno dal nazional popolare sicuramente come film popolari, ma sempre con un fil rouge molto intenso. Com'è nata la scelta su Ritorno alla Havana? Dove è nata? Beh, il mix che sempre cerchiamo, cioè un autore, un regista, questo era un regista che ha già vinto Cannes, era stato spesso a Venezia, infatti il film è stato a Venezia, ha vinto anche un premio, quindi diciamo la nostra scelta è stata confermata anche dall'esito della critica. Una storia che poi nel corso dell'anno, quando il film è uscito, ancora oggi insomma lo vediamo nelle cronache, no? L'avvicinamento di Cuba, quindi è un film molto attuale su cinque amici che si ritrovano e che parlano di loro, dei loro sogni infranti, di quello che è stato il castellismo. Sì, il film stato Cuba, quindi vince proprio per la sua attualità assolutamente, sì, stringente, assolutamente, in questo momento. E la scelta del doppiaggio nel film? Ma la scelta del doppiaggio noi un pochino sempre, cioè allora prima di tutto per noi il doppiaggio è fondamentale, è una scelta di democrazia, no? Quello che io dico sempre a chi diciamo, è contrario, no? A chi critica. Ma sono sempre di meno, negli Stati Uniti, nel mondo anglosassone, i film sono foreign language, sono in lingua straniera. Qui da noi i film non lo sono, cioè sono in italiano e questo, seppur si perde chiaramente qualcosa, e questa diciamo è una parentesi per non voler sottolineare la bravura della nostra industria, i nostri direttori, i nostri doppiatori, i nostri adattatori. Mi associo. Però allo stesso tempo si avvicina il pubblico, quindi il film non è più straniero, quindi il film inglese è un film recitato in italiano, ma la stessa opportunità il film francese, il film in questo caso franco-cubano, e quindi il pubblico viene avvicinato. Per questo dico sempre che è uno strumento di democrazia. Ritorno alla Havana, Stefano, è in francese, vero? Ritorno alla Havana è no, in spagnolo. Il regista è francese. È francese e ha voluto raccontare questa storia a Cuba, perché il film è girato a Cuba. Questi signori francesi ci stanno insegnando, reinsegnando il nostro mestiere. Ma guarda che sono molto contento. Adesso considerate che quest'anno il film francese candidato agli Oscar è un film turco. Addirittura. Certo, sì, beh. Questo a favore, sì, di questa, sì, certo. Mustang, a favore, sì, di questa multietnicità che funziona da questo, sì, beh, assolutamente, questa situazione. Diciamo che avete scelto anche, avete un parterre di doppiatori. Anche qui Rodolfo Bianchi è un direttore. Paolo Modugno, un altro bravissimo, sia direttore che dialoghista. I doppiatori sono Ludovica Modugno, strepitosa, Roberto Stocchi, ancora Francesco Prando, Franco Mannella, Angelo Maggi, Graziella Polisenanti, Massimo Trigiani, Erika Ioconecci, che fa Leidiana. Un film anche questo molto, ma molto interessante. Che avete nel paniere subito dopo, ovviamente, questa situazione del Gran Premio del doppiaggio? Cosa sta uscendo della Lucky Red? Utilizziamo allora anche questo momento. Ma come no? Allora, a Natale abbiamo Frenny, Richard Gere, un, diciamo, un preferito del pubblico italiano, con un film sentimental thriller, diciamo. Ci sta lui, ci sta su questi film. Ci sta, è proprio il pane per i suoi denti. E lì è sempre la vittima, poi non so in questo caso se è ancora la vittima. Lui è così bello, buono, simpatico. Quello non è la vittima. Non diciamo altro, visto che è un thriller. E poi c'è anche allora, Piccolo Principe, se non sbaglio, un investimento importante. Abbiamo due grossi film per inizio anno. Il primo è Piccolo Principe, film straordinario, con un doppiaggio straordinario. Sì. Con doppiaggio e Tony Servillo, come su tutti, da quel punto, ma ci sono tutti. Poi ci sono tutti, e poi il 5 c'è Carol, quindi Todd Haynes, certo, miglior attrice a Cannes, 5 candidature con Globi d'Oro, film che è molto nel mio e nel nostro cuore, e che speriamo faccia una strada molto lunga anche in termini di incasso al cinema. È importante questo film, anche questo su. Io vi invito a vedere il trailer di questo film Carol, perché io non conoscevo, ho visto le candidature, sono andato a informarmi, ovviamente c'è tutta la possibilità in internet di capire di cosa parla, ed è pazzesco, è un cazzotto nello stomaco, bellissimo, bellissimo. Carol è veramente intenso, ma veramente bello, bello che c'è poi il protagonista della teoria del tutto, se non sbaglio, lui? No, non è un altro, quello è un altro. Qui è Cate Blanchett e Rooney Mara. Scusami, sì, le due donne. Oddio, stavo veramente pensando a un'altra situazione. Scusami. Hai visto un altro trailer? No, era questo il trailer, però ho messo in mezzo la faccia di un altro. Penso un po' te come sto, ma a me si confondono le idee anche a me. È la competizione, Sì, comunque, no. Complimenti, Stefano, per Ritorno alla Havana, perché è un film splendido, esattamente come gli altri in questa edizione d'autore, e soprattutto complimenti per il doppiaggio, perché avete fatto un lavoro fantastico. Sarà una bella lotta, non vedo l'ora di aprire quella busta, ma tanto secondo me veramente film importantissimi, ci teniamo a sottolinearlo per mettere anche come radio di servizio di dargli anche una seconda vita, visto che c'è la possibilità sia televisiva ovviamente che quella in Blu-ray, tanto DVD eccetera, eccetera, anche perché eccetera. I film in questo momento si possono fruire in tantissimi modi, anche vederlo dopo un pochettino di tempo che è uscito è sempre comunque un piacere. Si parla di visualizzazioni. Stefano, grazie, ci vediamo. Grazie. Il 17, giovedì. Grazie, in bocca al lupo per tutto, ovviamente. Bene, poi c'è un altro film dove doveva esserci l'amico Paolo Pensa della 20th Century Fox, che non ci ha raggiunti, forse sarà in treno insieme a Melzi del Rill, in mezzo in qualche... È in aereo, che è peggio, in aereo non si può fare. Comunque, il anche film qui è Calvario, l'ultimo dei 5 film candidati, esatto. No, Filippo? È un film meraviglioso, anche questo, ovviamente, è un film incentrato su un personaggio, su questo prete che deve in certo qual modo redimere un villaggio, e devo dire che è inutile svelare la trama, è un consiglio, andatela a vedere, perché comunque il personaggio è fantastico. E credo che sia già in DVD o no? No? No, questo non lo sinceramente so, non lo so. Non, lo so. Non è ancora uscito. Questo non lo so, ha vinto diversi premi. Io citerei, perché è giusto dirlo, che sì, Gianni Galassi e i dialoghi, esatto, italiani, come la direzione del doppiaggio è sempre di Gianni Galassi, un altro grande personaggio di questo mondo, uomo di grande cultura che avremo presto ospite in questi microfoni, e i doppiatori sono Paolo Marchese, Simone Mori, Benedetta degli Innocenti, Massimo Di Ambrosis, Gianni Bersanetti, Andrea Lavagnino, Gaetano Varcasia, che non c'è più, voglio dargli un bacio, veramente grande, sì. Gaetano se n'è andato troppo presto. Dante Biagioni, Barbara De Bortoli, Emiliano Coltorti, Alessio Cigliano, Pasquale Anselmo, Franco Mannella, Anna Cesareni, Edoardo Stoppacciaro. Abbiamo detto tutto, Filippo? No, no. Dobbiamo ricordare una cosa, sì. Di votare assolutamente fino all'ultimo istante il premio del pubblico, la miglior voce maschile per il pubblico a casa e la miglior voce femminile dell'anno. Potete farlo su Facebook alla pagina Gran Premio del Doppiaggio. Esatto, oppure sul nostro sito che è premiodeldoppiaggio.it. Sono già più di 10.000. Sì, abbiamo avuto un successo incredibile quest'anno, un seguito sempre, tutti gli anni, ma quest'anno particolare, un po' di diciamo più che i social riconoscono al doppiaggio il suo giusto merito. Quindi benissimo, io vi ringrazio dell'ospitalità che ci avete dato a voi in questa splendida trasmissione. La voce è e rimarrà sempre regina delle forme di comunicazione, e noi che gestiamo il premio del doppiaggio riconosciamo la voce, soprattutto quella italiana, voglio dire, tutto il rispetto che ma merita. Ce lo riconoscono anche gli altri, quelli che vengono doppiati, sai, questa è una cosa bellissima. Dico una semplicissima cosa: in un momento di grande rivoluzione del sistema della produzione, della distribuzione audiovisiva nel mondo, tutti i nuovi distributori che arrivano in Italia, i nuovi produttori che arrivano in Italia, non parlano con nessun altro se non con i doppiatori. Cara Loretta Martinez, ti presenterò bene nel prossimo blocco, però tu sei qui vicino a noi, sì, già dall'inizio. Tu sei una vocal coach, ma racconteremo fra pochissimo quanto, certo, sei importante. Cosa ne pensi di queste parole che stiamo spendendo intorno a quest'arte? Ma io sono un amante del cinema, vi ascoltavo con un'attenzione incredibile, perché poi sono una che va al cinema tantissimo, mi piace moltissimo, quindi sono contenta di aver avuto queste notizie, così so cosa fare adesso nelle vacanze di Natale. Questo è l'obiettivo della categoria edizioni d'autore, spingere le persone ad andare a vedere dei film che normalmente non hanno questa grandissima visibilità, esatto, nonostante siano dei film fantastici, sì, meravigliosi. Sì. Non c'è soltanto il film Avengers, infatti, con tutto rispetto, perché io mi diverto a guardarli, certo, assolutamente, io mi vedo e mi diverto tantissimo, però sono questi film che poi ti aprono il cuore, ti aprono un'altra finestra che tu non pensavi magari. Ma sicuramente, infatti adesso me li sono già segnati. Se, dopo te li do. Un po' di messaggi, non tutti perché sono tanti, come ogni domenica è davvero un piacere, grazie Pino, ci conduci con i tuoi ospiti fra teatro e citreatro, sentite, bisogna rifarla, fra teatro e cinema, specchio d'emozione delle vostre, delle nostre vite, forgiare termine che sta al fabbro, sta anche al lavoro sulla voce, nelle varie espressioni della personalità e del vissuto, quando il doppiaggio migliora il cinema straniero, grazie anche per la rassegna dei film, baci da Rossana. Grazie Voice Anatomy, da papà separato oggi sono triste ma sorrido con voi. Poi c'è tanto un messaggio, a parte i complimenti gli altri, c'è Pedicini all'Eur? Non lo so, non lo so se Pedicini, la voce che vi spesi, sia all'Eur, ma non lo so neanche. Radio di servizio. Sì, ho capito, non so se Riccardo Rossi sta al Pigneto, non lo so. Cioè... Pino Insegno è qui. Sì, io sono qui, Filippo Cellini c'è, la nostra amica Martinez anche, c'è. E poi c'è l'altra persona che continua, dice ma parlate sempre di doppiaggio, perché non chiamate Focus doppiaggio poco a... no, va bene, ma insomma parliamo di voce, come vedi se tu stai attento dall'inizio, parliamo un po' di tutto, la decliniamo veramente in tutte le direzioni, insomma abbiamo avuto pure chirurghi della voce, santa miseria, più di questo, e poi è una trasmissione che aiuta sicuramente qualcuno, è anche un tutorial interessante. Allora io saluto Filippo Cellini, ma impongo all'amica Loretta Martinez, o Martinez, poi mi dirai perché, di rimanere, perché parleremo con lei di un momento molto importante per quanto riguarda la voce, per cui resta amico mio, cambiamo registro, a tra poco con Voice Anatomy. Tra poco. Voice Anatomy. Bentornati su Voice Anatomy, gli ultimi due blocchi insieme, ma li passiamo in maniera molto interessante come sempre, e ci ha raggiunto Loretta Martinez, sì, perché sì. Martinez, che origini ha? Sudamericane? In realtà origini spagnole. Perché il nonno di mio nonno era madrileno. Sarà contenta Alessia Navarro, la capoautrice della nostra trasmissione, che parla lo spagnolo e sarà presto impegnata. Io no. Tu no? No. Ma come? Vergogna, vergogna. Allora, dovete sapere che Loretta è uno dei più rinomati vocal coach in Italia. Io leggo perché è una bio molto interessante. Laureata in fisica all'Università di Pavia, studia canto lirico al Conservatorio di Milano e canto jazz alla Berklee School di Boston, fino a diplomarsi in canto e specializzarsi in jazz o jazz. o jazz, ma che dir si voglia. Numerosi lavori l'hanno vista protagonista in teatro. È inutile che li raccontiamo tutti. È stata la preparatrice vocale di molti doppiatori italiani, tra cui i doppiatori da Pumais come Fiamma Izzo, che ogni tanto mi racconta i tuoi esercizi e ce li fa fare a noi per interposta persona. Ovviamente ha fatto parte delle trasmissioni più importanti della televisione che riguardano il canto, come Amici di Maria De Filippi, è stata lì coaching anche lì, è presidente della giuria del concorso Canoro di San Vincent, La Bella e la Voce, giurata nel concorso nazionale Canto Materno Tour Music Fest, è una voce per il Sud, è stata membro della giuria del programma Tribute Band su canale televisivo, eccetera eccetera. Attualmente insegna nelle diverse sedi, nella sua scuola e nell'Accademia di Musical MTS di Milano, ma anche a Roma. Cara Loretta, tu hai una scuola con 4 sedi, Milano, Roma, Caserta e Verbania, vero? Sì. Bene. Nelle quali tieni 2 corsi professionali, uno per cantanti e l'altro per insegnanti di canto moderno. Come nasce in te, insomma, questa passione per l'insegnamento, prima come protagonista e poi guarda, ti dico la verità, io nasco come cantante con un sacco di problemi, perché facevo fatica a cantare, mi facevo sempre male, per cui è stata una ricerca prima di tutto male su di vocalmente, me. Ovviamente. Ma male vocalmente, non è che sbattevi per terra il ginocchio. No, questo ecco. No, non cadevo, diciamo ecco. Che cantavo e poi avevo sempre la voce giù, rauca, eccetera, quindi ho iniziato proprio a lavorare su di me. E una volta lavorato su di me, trovato delle soluzioni, le persone che hanno visto che stavo meglio hanno iniziato a dirmi: no, ma spiegami cosa hai fatto, come hai potuto, come sei riuscita. E lì è nato questa, diciamo, questo primo inizio dell'insegnamento. Poi sono stata in America, ho lavorato con una grandissima scienziata, ricercatrice che si chiama Jo Estill, si chiamava perché ora è scomparsa, e lei mi ha insegnato moltissime cose. E da lì è nata proprio la mia passione per trasmettere le cose che stavo. Ed hai ideato un metodo di tecnica vocale per cantanti e attori, VMS, o VMS, che è Vocal Music System, che poi è anche un libro edito da Ruggininti. Sì. Ora Volonté, cambiata l'edizione. Ah, Volonté, va bene. Di cosa si tratta? Parlami di questa. Sono molto interessato personalmente e anche le persone, perché questa è una sorta anche di tutorial per la gente che dovrebbe saper parlare. Dovrebbero insegnarla a scuola, lo dico ogni puntata. Anche io, in realtà la voce è uno strumento delicatissimo, uno strumento che ha delle potenzialità incredibili, tutto sta a capire come gestirla. È uno strumento fatto di muscoli, cartilagini, e in realtà lo si utilizza esattamente come fa un atleta. Allora la cosa che ho sviluppato nel tempo è proprio una serie di esercizi che ti possono aiutare a potenziare proprio muscolarmente, a trovare delle capacità in più nello strumento, che fanno sì che si regga di più nel tempo, si trovino dei timbri, diciamo, diversi. Che poi non solo per professionisti, questo è ottimo anche per professori, per chi insegna, per chi usa la voce, poi tutti noi bravissimo, usiamo la voce, bravissimo, anche esatto. Per parlare alla propria moglie, insomma, bravo, in maniera migliore, o al proprio marito. Ma in realtà la voce artistica è un utilizzo della voce, poi la voce a livello professionale la usano tante altre persone. Mi sono trovata a fare corsi di public speaking, corsi per insegnanti, soprattutto le povere maestre delle elementari. Con i noduli dell'insegnante, no? Esattamente. Parlo a un certo punto. Bravissimo. Non so perché strillano con la gola. Esatto, per cui in realtà questo è veramente un corso che andrebbe fatto, messo a scuola e insegnato alle persone come cercare di utilizzare al meglio la voce. Com'è questo metodo? Ma guarda, è un metodo facile, in realtà, perché è un metodo che usa molto la memoria corporea, quindi ti dà 4-5 esercizi semplici, te li fa ripetere fino a che il corpo non ha memorizzato. Soprattutto bisogna sapere usare bene la respirazione, perché la voce è uno strumento a fiato. Sì, e non solo. Sì e non solo, okay. Nel senso che è vero che la gestione del fiato è fondamentale, è pur vero che la gestione del fiato deve essere legata ad un utilizzo dello strumento che è la laringe, e quindi in realtà se si mettono insieme le due cose, respirazione, che non è, ormai non è più sai respirazione, ma è proprio un lavoro sul corpo, sulla postura, che aiuta a capire come gestire l'aria sotto le corde vocali. Ma poi ci sono le corde vocali, e le corde vocali sono un mondo incredibile che da scoprire. Enormi, ma sono invisibili, piccoline, le fanno tutto questo. Veramente, veramente vibrano 200-300 volte al secondo quando stiamo sono cantando. Pochi millimetri, poi sono veramente piccolissime. Quelle delle donne poi la metà degli uomini, per cui ancora più piccole. Finalmente. Oh, però come si dice, notizia. Nella botte piccola, no? Però voi riuscite a usarle il doppio di quelle degli uomini. Esattamente. Forse vedi? Trovate le parole migliori per fermare le vibrazioni delle corde vocali maschili. La realtà è che lo usiamo con una velocità incredibile. Esatto, avete il cervello che funziona più rapidamente, le corde vocali che vibrano di meno. È vero. Ma il cervello cammina molto di è più. È vero, che andiamo molto veloci. Quali sono un paio di questi esercizi? Manco allora, di, guarda, per un... interesse anche delle persone no? profane che ci come stanno no? ascoltando. Il più facile di tutti è imitare la moto. Quindi la brum brum della moto. Sì. Quando ho capito come si fa questo esercizio, faccio una sorta di sirena dell'ambulanza. Se la faccio, vi lascio un po'. Questo. Che sembra che ci sta ascoltando. Penserà che siamo tutti matti. Un ospite che sta mancando di rispetto alla trasmissione senza la lingua, ma vibrando con la bocca. Cioè, non ci va. Devi solo pensare a non spingere quando sali. Prova. Non mi... ecco, tabola, per favore Valerio, ma stiamo facendo un tutorial serio, ovviamente mi metto in discussione anch'io. No, invece bravissimo, perché già hai iniziato a fare l'esercizio bene, che non è semplice, fare il suono già è difficile. E che quindi... mi vergogno un po', sembra strano, ho capito che... sembra strano, ma noi siamo inibiti, almeno... uno sembra che ci abbia la faccia come si dice, infatti mia madre quando sono nata ha guardato prima il sederino, poi la faccia, ha detto che bello, so gemelli, come dico io, una storiellina stupida. Ma questo è il primo esercizio della moto, questo... che comunque elasticizza le corde vocali, serve per strecciare esatto, un po' le corde vocali. Esattamente, bravo. Non solo, ma pensa che lo utilizzano i logopedisti per curare le patologie, quindi è un esercizio che è benefico in modo incredibile. Quindi magari se urlo, se strillo, se ho litigato, se ho fatto esagerato, se mi sento che magari stanca vocalmente, faccio questo esercizio per 2-3 minuti, la voce resetta tutto e la laringe si riposa e tutto va meglio. Per cui è una sorta di mantra ormai del vocalist, sì, che anche quando si arrabbia si mette e fa la brrr. Dico, quanto è pazza quella signora, esatto. Sta in un angolo a imitare la motocicletta. Esattamente, questo è un esercizio. Poi ci sono degli esercizi invece che strizzano un po' l'occhio allo yoga, agli esercizi di equilibrio, che aiutano a trovare una postura migliore per il corpo, che legati a questa motocicletta di cui abbiamo per visto cui abbinare prima, il corpo al movimento fa sì che l'aria sotto le corde spinga poco e bene. E questo è il... Perché non serve forzare, bravissimo, altrimenti rischi di chiudere la gola, bravissimo, e strapparle. Sì, in realtà l'istinto è quello di prendere un sacco di aria e di spingere, che è il peggio che si può fare quando sì, si canta e si parla. E infatti uno dice sei crescente perché magari spingi troppo con la voce, o calante. Esattamente. Se... esattamente, quindi il trucco c'è, non è quello di prendere tanta aria, ma quello di prenderne il giusto e soprattutto saperla dosare questo bene. Questo poi bisogna insegnarlo anche ai grandi tifosi che vanno allo stadio, che perdono la voce al primo gol. Si spaccano. Sì, anche sì, ai coach, quelli che stanno all'angolo di un incontro di pugilato, sì, o di un all'allenatore di calcio, se voi vedete le interviste degli allenatori alla fine dopo della partita. No, perché la squadra ha funzionato, certo, in un certo modo, capito? Capisci, da lì se hanno perso, hanno vinto, da quanta voce ha perso. Ma si può non perdere la voce. Assolutamente. Noi facciamo un mestiere, parliamo dalla mattina alla sera e anche alla notte con il doppiaggio, la recitazione, il teatro, il canto, eccetera, e voi pensate che la voce non va via. Mai. Pensate che bello, noi uomini con le mogli che hanno il cervello veloce ma vibrano meno, se imparassimo tutti a utilizzare la voce possiamo controbattere alla grande. Per assolutamente cui vai, sì, con la motocicletta. L'altro esercizio, sì, allora appunto ti dicevo questi esercizi abbinati, di postura, sì, abbinati, gli esercizi di postura sono proprio cercare una posizione, si chiama di centratura, in cui si abbassano le spalle, si pensa di avere due sacchetti della spesa molto leggeri in mano e si inizia a fare una serie di vocalizzi, che questa parola non è tanto amata da chi studia, perché si pensa subito che barba. Esatto. Allora i cantanti li fanno sulle melodie della canzone che devono cantare, così almeno iniziano a imparare le loro melodie, mentre gli attori li fanno sulle frasi che devono recitare, invece recitare, o gli speaker che devono leggere, o il doppiatore che deve doppiare. Per cui si può strillare senza perdere la voce. Esattamente, anche lì, sì, sì, sì. E diciamo che questo percorso che noi facciamo è un percorso breve, perché quello che è importante e mi piace lanciare come messaggio è che studiare lo strumento vocale, come si gestisce, non è una cosa lunga, cioè è una cosa che ha bisogno di poco tempo se ci si mette è un molto po', pratico, è molto, molto attivo soprattutto, sì, molto non veloce, è, non c'è grande teorizzazione ma c'è grande praticità, è la cosa, sì, poi che amo di più di, sì, tutti, perché è inutile raccontare, tu poi, bravo, potresti teorizzare oggi pomeriggio qui, stare qui sei ore a teorizzare, a parlare di anatomia, a parlare, esatto, di un sacco di cose, che va bene, per carità, anche quello ci sta, perché bisogna conoscere dove si parte, tanto conoscersi da un punto di vista fisiologico, fisiognomico, infatti non tutti, nessuno ama la propria voce, se ci fai caso, cioè tutte le persone profane, capisci? Il mio amico non mi corregge più, che io dico sempre laiche, adesso sottolineo profane, si ascolta, ma io odio la mia voce brutta, la mia voce... no, è soltanto una grande diseducazione ad ascoltarsi e a capire come esce fuori la voce dal nostro corpo, come può risuonare fuori dal nostro corpo. Sì, e non solo, ma proprio imparare anche ad ascoltarci con le orecchie degli altri, perché gli altri, brava, ci sentono la frase magica, in un altro modo, gli altri, sì, ci percepiscono in un altro modo, e quindi imparare a sentire come ci sentono gli altri diventa, per cui registrarsi, visto che abbiamo anche degli apparecchi che non, ormai, sono molto fedeli, ma abbiamo degli apparecchi, ma ormai non... con i cellulari, esatto, si fanno delle cose anche molto dignitose, per cui... Senti, sappiamo che poi questo metodo è stato adottato dall'Università Federico II di Napoli, sì, della facoltà di locopedia, questa, sì, è una cosa molto importante, come viene utilizzata all'interno di questo settore? Allora, in realtà anche questa cosa è nata proprio dal fatto che nel tempo, sperimentando su tanti artisti che purtroppo, volenti o nolente, con la fatica, il tour de force a cui sono a volte sottoposti, si fanno male, ho sviluppato una serie di esercizi che, oltre ad essere di allenamento e quindi di potenziamento, di anche proprio di propriocezione, sono degli esercizi che aiutano a risolvere le problematiche vocali all'occorrenza, per cui il poveraccio che deve andare in scena alle 8 di sera e sono le 7 senza voce, io fai tanti... da cortisone, insomma, tu sono sei il cortisone, cioè, i produttori del Bentaland cominciano ad odiarti, ma da questo... scherzi, ma proprio 10 minuti prima di entrare qui mi ha chiamato appunto un vocal coach di una compagnia di musical molto famosa che è in scena adesso, protagonista senza voce, esattamente, che uno dei fatto un toradol per telefono, cosa hai fatto? No, però diciamo che ci sono degli esercizi e delle cose che si possono fare che ti possono almeno rimettere in sesto per quel paio d'ore di cui hai bisogno. E se sei infiammato pesantemente, è chiaro che poi lì c'è il foniatra, che è il migliore amico dell'artista vocale, che ti dà il farmaco giusto. Poi è pur vero che noi spesso, magari vocal coach, poi siamo costretti a volte a dire: guarda, prendi questa medicina al di volo, corsa, certo, al volo, Clenil piuttosto che il cortinale, ecco, sì, eccetera. Diciamo che si cerca di evitare il cortisone, sì, il più possibile, si cerca di fare l'aerosol e di dare quelle che agiscono meglio sulla corda vocale, se no erisimo e malva, sì, ecco, poi quelli sono dei rimedi naturali che al momento, quando hai proprio una situazione grave, lo devi fare prima, esatto, bisogna farlo, bravo, prima, bravo, prevenzione è meglio che curare. Resta con noi, va perché bene, fra un po' ci raggiungerà il nostro amico comune Matteo Becucci telefonicamente, che ho avuto il piacere di condividere con lui un'avventura tale quale show l'altro anno. Non lo sappiamo, lo stiamo cercando comunque. A tra pochissimo con Voice Anatomy. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Voice Anatomy. Interessantissimo la conversazione con la nostra amica grande professionista Loretta Martinez, sì, sì, sì, con la Z così, e ci sta raccontando questo bellissimo metodo, lei è una grandissima vocal coach, ma ci state seguendo, lo sapete perfettamente senza che io riracconti il percorso che stiamo facendo. Ho detto poco fa che uno dei tuoi allievi, sì, si può dire così, ma sì, anche è vero, è vero. Lui è un gran professionista, enorme, sì. Matteo Becucci, che è al telefono. Matteo, buonasera, ciao Loretta. Ciao Matteo, ciao. Senti che voce che sta usando Matteo. Ciao, no, non è così. Matteo, no, è che è con la sua maestra, cerca di parlare bene. Hai capito? Misura le parole. Devi sapere che Matteo, durante tale quale show dello scorso anno, mi ha sempre nominato te, ma nel sì, senso, eh, perché io ho detto, vedi, io sono un po' diseducato nel cantare, ho vissuto questa avventura così, andando un po', so recitare, conosco la voce, come utilizzarla, eccetera, ma è stata una sorpresa riuscire ogni tanto a fare qualcosa. Ho detto: guarda Pino, va benissimo, devi chiamare Loretta perché lei ti sistema in due secondi, eccetera, eccetera. E Matteo, per dirlo lui, che è veramente bravo, è riuscito a fare delle cose pazzesche. Ma poi è pignolissimo, Matteo, sì, non gli va mica bene tutto, anzi. Ma sì, sono un po' rompiscatole, è vero. Senti, così fa il toscano, no? Non sta attenta alla dizione. Poi quando canta, però qual è l'altro anno, che cosa hai fatto bellissimo? Fatti tutti bellissimi, ce n'erano. Io ho fatto Feliciano. Ah, se Feliciano era pazzesco. Mick Hacknall fu la prima puntata, che tu hai vinta la prima puntata, sì, se non sbaglio. Sì, sì, come sì, fa sì. Mick Hacknall senza musica? In the middle of the night when the time is right. E Bruno Lauzi? No, Bruno Lauzi ci ho studiato una settimana, troppo di... No, non lo so, in questo momento do... Ritornerai... Ma era un po'... Anche lui di vibrato. Il vibratino era... Si fanno una settimana di prove, di trucco, sì, e quant'altro. Insomma, Loretta è straordinaria. Meno male che passa anche per Roma, per cui prima o poi io capiterò da quelle parti, perché una come lei è veramente un'infiltrazione quando c'hai una tendinite. Senti, Matteo mi ha detto che faccio l'effetto del cortisone. Lei si chiama Loretta Bentelan Martinez. No, ma è vero. Poi io a volte mi capita, che ne so, che ho appunto dei problemini, raffreddori, allora gli telefono un po'. C'è raffreddore. Cioè, non è un medico, ma ne sa, forse per quanto riguarda la voce, forse ne sa anche di più di tanti medici. E quindi, insomma, infatti io te l'ho detto, cioè Loretta, se vuoi veramente educare la tua voce, ma non solo, anche cantare, io te penso che io non ho mai preso lezioni di canto e non ho mai capito cosa facevo con la voce fino a che non ho trovato lei e il suo metodo, e ho detto: questa, aspetta un po', questa non, infatti, ne hai parlato in momenti non sospetti, non stavamo facendo la radio, non c'era nessuna intenzione di fare pubblicità o chissà cosa, ma l'hai subito messa in evidenza, caro Matteo. Va bene, volevamo questa piccola testimonianza da parte tua, era un piacere tanto sentirti, perché volevo averti in studio, ma tu stai in giro sempre a presentare, a presenziare le tue canzoni, la tua vita. Perché sei un cantante che imita poi Matteo Becucci, non è che non è che fai soltanto gli altri. No, oggi c'ho la presentazione di un libro che ho scritto insieme ad un autore fiorentino che si chiama Antonio Frescentese, è una persona con cui avevo collaborato in teatro. Come si chiama il libro? Diccelo, visto che siamo. Il libro si chiama Tutti quanti Mary, Acara Edizioni di Trento, e oggi faccio la presento in una libreria di Livorno. Mi dispiace non essere lì a leggere il primo capitolo per farlo diventare ancora più bello questo libro. sarebbe un onore. Se vieni a Roma, sono tuo da quel punto di vista, che non posso dirlo perché la mia autrice dice: lo dici 200 volte a trasmissione. Però è quello. Quando si parla per 3 ore si utilizzano gli stessi vocaboli, mi dispiace. Matteo, in bocca al lupo e buon Natale. Ciao. Ed ecco un testimone oculare del lavoro che fai. E poi leggo qui che un altro tuo progetto è la collaborazione con la West London University, una delle migliori università di musica dell'Inghilterra. Sì. Beh, insomma, non chiamano l'ultimo della lista. No, in realtà devo dire che è stato amore a prima vista, perché loro hanno un progetto didattico meraviglioso. Il grosso problema in Italia è in questo momento che non c'è ancora una legislazione che definisca bene la professione dell'insegnante di canto. Non c'è una legge. Ma non vedo l'ora che il ministro Stefania Giannini venga qui. È una cara persona, e posso proprio, non parliamo né di colori politici, ma proprio una persona molto attenta, e quel giorno che verrà io chiamerò tutti i professionisti che si sono alternati su questi microfoni, come te, Diego Cossu e tanta gente che ha proprio questa voglia di rendere tridimensionale questo mestiere, che può essere utile a tutti, e non è detto che uno debba fare il cantante, fare qualsiasi cosa, anche il politico, e imparare a usare la voce in qualche modo. Guarda, a me è capitato di lavorare anche con i politici. politici che avevano proprio bisogno di capire come utilizzare la voce, sì, per essere più comunicativi. Sarebbe ora. Sarebbe ora, no? Da questo... Beh, devo dire che è stata un'esperienza che mi ha veramente formato, mi ha segnato. E quando andrei a Londra adesso in Inghilterra? Quando... Ah, sono appena stata. Sono stata la settimana scorsa. Aggiungiamo pure Londra. Aggiungiamo Verbania, Londra, Roma, Milano. Aggiungiamo Londra. No, in realtà e quando ti vedo io? Devo venire a Londra. No, devo dire che sono un po' una trottola, però guarda, questo progetto è molto importante perché porta in Italia la professione dell'insegnante di canto riconosciuto con un diploma di laurea. E questo secondo me è una cosa importantissima, perché è giusto che chi fa questo mestiere abbia una preparazione. Senti, qui ci sono tante cose, io ti riavrò dal punto di vista, sì, questo lo devo dire, lo devo sottolineare dal punto di vista soltanto professionale, perché dopo che dici è una bellissima donna, io ma ti avrò. Ma c'è qua il mio fidanzato, quindi sicuramente. Lo so, ma sta dall'altra parte del vetro, è noi siamo chiusi, non può entrare. Anche deve rompere, vero, tutto, per cui non si può fare, io mi difendo fino all'ultimo. Cioè, sei impegnata in ricerca scientifica, ma non possiamo parlarne in due minuti. Invece voglio parlare della tua voce, che so che stai preparando un disco. E allora, dove sei protagonista tu con la tua voce e ti fai le lezioni da sola. Sì. Allora, ieri ho fatto una bellissima serata al Planetario di Milano, con il conservatore del Planetario. Abbiamo fatto una serata dedicata alla luce e lui spiegava le caratteristiche della luce e noi alternavamo dei brani rispetto a quello di cui lui parlava, perché abbiamo parlato della velocità della luce, dei colori della luce, della luce corpo-corpo, e noi abbiamo fatto tutta la storia del jazz spiegando questa cosa, ed è stata una cosa bellissima che ripeteremo. C'era una tantissima gente. Sono canzoni gente preesistenti, insomma. Sì, abbiamo fatto, abbiamo fatto degli standard jazz, abbiamo fatto, diciamo, rivisti dal nostro gruppo. Qual è una abbinata alla luce? Noi cerchiamo sempre canzoni abbinate alla voce. E alla luce? Allora, guarda, i primi due brani che abbiamo fatto sono stati sui colori della luce, quindi due brani di Mingus, di Charles Mingus, che erano Portrait e The Dry Cleaner. Fammi due note. Allora, Portrait fa I see the dream of Christmas. Questo era una. E l'altra era, l'altra le parole non mi ricordo. L'era questa? No, l'altra è un brano difficilissimo che non si può fare senza musica. No, non si può fare senza musica, nel senso che proprio non hai bisogno degli accordi sotto, che cambia continuamente. Inventali, nessuno lo sa. Comunque fa una, non mi ricordo le parole, ma è chiamate un esorcista e fate uscire gli altri dall'interno del corpo di Loretta Martinez. Signori, siamo arrivati purtroppo alla fine della nostra trasmissione anche questa domenica. Sono stato molto felice di alternare qui delle persone straordinarie. Grazie davvero, grazie a tutti del vostro affetto. Grazie a te, cara Loretta, come ringrazio tutti i nostri ospiti. Grazie. Noi ci sentiamo ancora una volta domenica prossima, sempre Radio 24, sempre alle 14:30 fino alle 17 con voi. Grazie a Valerio dall'altra parte del vetro, grazie ad Alessia Navarro, grazie a Fabiani Damiano, grazie Gaia, grazie Radio 24, grazie voi Sanatomi. Grazie a voi. Ciao.